tuo parente sembrate a volte i deregi evoluti, avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. La treccia mi hanno fatto. Hanno fatto la treccia, abbiamo Mart, sì, una bambina che si chiama Mart. Benissimo, vai. E abbiamo un po' giocato con loro, ma soprattutto hanno dormito perché siamo partiti molto tardi. Ieri sera erano davvero. E le tue corse, l'eco dei tuoi no. Mi stai facendo paura. Il viaggio è andato bene, i bambini sono stati bravissimi e ora pensiamo a loro, pensiamo a fare festa con le loro famiglie. Donna, dimmi cosa vuoi. Ora ditemi voi, popolo della radio, ascoltatori della Zanzara, voi che siete in macchina, cosa c'entra un ministro delle riforme? Un ministro delle riforme, un ministro dei rapporti con il Parlamento, uno che dovrebbe occuparsi di riforme, cosa c'entra con i bambini neri, la maggior parte, ma non c'entra nulla che siano neri, potevano essere anche bianchi provenienti dall'Ucraina, è uguale. Bambini neri adottati in Congo che sono arrivati in Italia. Che bisogno c'era di fare una specie di super spottone con la signora Boschi, con la giovane Boschi che scende dall'aereo con i bambini neri mano nella mano, che si fa fotografare certamente non a caso dentro l'aereo mentre i bambini passano le mani sui capelli, dentro i capelli. Che bisogno c'era? Ditemi voi se questo non è un enorme spot. Cosa ci azzecca? Adesso non la vorrei fare drammatica perché probabilmente poteva accadere a qualsiasi governo. Che bisogno c'era di presentarsi in questo modo, di far arrivare questi bambini del Congo e nello stesso tempo di realizzare un enorme spot? Bambini mi hanno fatto una treccina. Dai su Parenzo, dillo anche tu, dillo anche tu. Guarda, intanto bentornati bambini dal Congo, vabbè, questo bisogna dirlo. No, arrivati, sarà non bentornati, arrivati. Ben arrivati bambini dal Congo, bisogna dirlo, il buonismo di Radio Popolare, Radio Vaticana, bentornati e arrivati in Italia. Dopodiché, caro amico, la nostra ministra bella, bionda, eccetera, facesse le riforme e ad accogliere i bambini ci andasse il signor Napolitano, ad esempio, che è il rappresentante dello Stato, che deve essere l'uomo taglianastri, il nostro garante della Costituzione. Ci vada lui, la signora Boschi stia non a casa a fare la calzetta, ma a casa a fare le riforme. Devo dire che questa volta c'è ragione, non ti posso dire niente, al di là del tuo buonismo come al solito, no, ben arrivati. Fare non la calzetta, perché vedo già che mi scrivono, le riforme. Che calzetta? La signora Boschi si deve occupare di riforme, non deve andare a prendere i bambini che arrivano dal Congo. Dopodiché è normale però che lo Stato, nel senso le istituzioni, ma dove andare un funzionario della Farnesina, il ministro degli esteri, quello che è? Napolitano, cosa doveva fare? Sì, Napolitano, tu dici non c'ha meglio da, non c'ha nulla da fare. Dico, sta lì, adesso le elezioni. No, hai ragione. La democrazia è salva, ha vinto il PD col 40%, ovviamente sto scherzando. E lui sta lì, cosa fa dei giardini del Quirinale con cioè, dici, tutto il una giorno? Una volta che il pericolo magari, si annoia tutto il giorno lì con la signora Clio, il Quirinale, è arrivato il giardiniere, ha tagliato le begonie. Una volta che ha tagliato una le begonie, una volta sparito il pericolo Grillo, poteva anche dedicarsi a certo, andare lì e lasciare impegnata la signora Boschi a fare le riforme. Eri chiaro e trasparente come me. Ma che abbiamo qualcos'altro dalla Boschi? E mandiamo, dai. Erano molto contenti i bambini. Erano emozionati, contenti e soprattutto sono impazziti quando dai finestrini hanno riconosciuto i genitori che li aspettavano, perché hanno vissuto con i loro genitori in passato, quindi insomma aspettavano di riabbracciarli, erano molto contenti. Noi siamo figli delle stelle. Show. attenzione, Grillo dice che in realtà non ha perso, Ma è a Bruxelles, Grillo. Sì, ha incontrato Farage. Cosa ci azzecca Farage con Grillo? Poi me lo spiegheranno, cosa ci azzecca il signor Farage, che noi abbiamo avuto una volta in studio a Strasburgo e ne ha dette di tutti i colori. Effettivamente anche Grillo ne dice di tutti i colori. Però diciamo la verità, il signor Farage è molto diverso da Grillo. Nigel, beh, comunque sì. C'è un consigliere comunale di Bologna delle 5 Stelle che si chiama Massimo Bugani ed è un fedelissimo grillino, il quale dice che paragona in sostanza Grillo a Mandela. Senti. Mandela? Sì, guarda. Oppure, cari signori, mi state dicendo che voi sareste andati da Mandela a dire no, smorza i toni, se no ti fai 27 anni in carcere. Smorza i toni. Ci amiamo, io non cerco di cambiarti, so che no. Cioè, in un movimento rivoluzionario, dice questo Bugani, che evidentemente non sa cos'è la rivoluzione, si va in carcere per 20 anni in un movimento rivoluzionario. Signor Bugani, molti deputati 5 Stelle, alcuni in realtà, parlano apertamente di campagna elettorale sbagliata, ma sentite questo Bugani. Chiedete voi, io credo di far parte di un movimento rivoluzionario. E nel movimento rivoluzionario si soffre e si perde e si sta 20 anni, 30 anni in carcere. Ma è qui che io sento di avere già vinto. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Intanto cosa succede? Mi raccontano dall'interno della riunione di Berlusconi con il Gota di Forza Italia, con i deputati, eccetera. No, mi raccontano che dice che non bisogna parlare male di Alfano. Dice, mi raccomando, non parlate male di Alfano. Cioè, una delle direttive che ha dato Berlusconi. Voi pensate a che livello siamo arrivati. Quello, mi raccomando, non attaccate Alfano. La Mussolini. Senti la Mussolini. E non dobbiamo avere atteggiamenti in questo momento contro gli altri, cioè quelli che sono adesso i potenziali nostri alleati. Quindi apertura però soprattutto alla Lega, non al nuovo centrodestra. Io su questo mi permetto di dire, meglio un purgatorio da soli che un inferno con Alfano. Questo perché? Perché Alfano ora è nel centrosinistra, è ancorato nel centrosinistra, ha fatto sui comuni accordi con il centrosinistra, è contro di noi, pur avendo ottenuto, se n'è andato. Diventa realtà, perché Silvio, Silvio. Oh, sentite, a proposito delle primarie, mentre già abbiamo Vittorio Sgarbi che ti scalda i motori, aspetta Riccardo, sono incontrati a Bruxelles, sì, Salvini e la Le Pen. Ma lo so, no? Ma chi se ne frega? È arrivato un cameriere a tavola e gli ha detto, sì, scusate, avete qualche intolleranza? Questa è buona, no? Scusate, avete qualche intolleranza? No, però aspetta questa cosa. Senti la questa santa. Questa è buona. Sai chi è? Che ha detto? Sì, Fitto, sì. La confusione dentro Forza Italia. Fitto e le primarie che non ci saranno mai. Le primarie, finché c'è Berlusconi non si può fare nulla, diciamo la verità. Berlusconi deve fare le primarie. No, Berlusconi deve attivare all'interno del nostro partito un meccanismo di selezione e scelta della classe dirigente. Se qualcuno e deve. Come si fa? Facendo le primarie. Cioè, primarie no, primarie sì. Ma di che stiamo parlando? Vittorio Sgarbi! Ciao Vittorio! Eccolo! Eccoci qui, ma tu ti rendi conto che Berlusconi ha dato una delle poche indicazioni che ha dato oggi? È stata quella che, mi raccomando, non attaccate Alfano, che ci dobbiamo rimettere insieme. Dimmi qualcosa, ti prego, dimmi. Beh, tu qualcosa. È da molto tempo che non è più in sé. Uno che candida da Samorì, ma cosa vuoi che possa fare? Vabbè, adesso non è che solo la candidatura di Samorì, Vittorio. Ma tutti quelli che ha candidato, no? Quindi voglio dire, che non ha candidato Bicicchetto. E Bicicchetto, ti ricorderai, sì, è una brava persona, così anche sì, simpatico per il caffè. Cosa fece? Inventò la candidatura di Musumeci, sì, che era quello che avrebbe vinto le elezioni in Sicilia, che ancora ha un forte peso di centrodestra, sì, e poi una volta che candidò Musumeci si incazzò con se stesso e candidò se stesso contro Musumeci facendo vincere Crocetta. Cosa disse all'epoca Berlusconi? Dice, con tutti potremo fare accordi meno che con Micichè, che ha fatto questo tradimento. Tu è stato candidato capolista, non femmina, maschio di Forza Italia in Sicilia, Micichè, che ha perso l'elezione. Ma uno che Cicchè, come tu sai, è il massimo nemico di Alfano. Sì, sì. Alfano è quello che lui nominò. Dunque, tu adesso dici come si fa? Regna la confusione mentale, cioè non sa quello che dice, cioè va dimenticato. Dimenticare Berlusconi è l'unica forma di pietà umana rispetto alla sua innocenza penale, ma la sua colpevolezza politica clamorosa, cioè sarebbe stato meglio Parenzo di qualunque candidato di Forza Italia dalle sue origini, perfino Parenzo. Vabbè, però Parenzo perlomeno è uno che ha ripreso a ragionare, per cui... Vabbè, scusami, Fitto ha preso 300.000 voti, però quello che è 250. Fitto infatti è un democristiano, non è mica... Fitto è come è lo Scajola del Sud, cioè è uno Scajola intelligente, ma era lì prima di Berlusconi ed è un antico giovane, come... è come Renzi, sarebbe perfetto la contrapposizione. Renzi, cioè, Fitto sta al PDL, cioè a Forza Italia, come Renzi sta al PD. Cioè sono due fenomeni che precedono i partiti di riferimento, l'uno il PD, l'altro Forza Italia, che hanno fatto le ossa della vecchia DC. Sono uno Andreotti e uno Fanfani. Certo. Ho capito. Come faccio a scegliere da te chi sia l'uno e chi sia l'altro? E Toti? E Toti che cos'è, scusa? È il fratello di Dudu. Cioè, fratello, proprio fratello. No, come? Sì, come fratello. Cioè, Dudu è più intelligente. Cioè, Toti, voglio dire, è un fenomeno comico, sistemato in quella posizione da perdente per essere quello che faceva, come dire, ginnastica con lui al balcone di Abano e per lasciare il posto all'eventuale arrivo, se mai fosse stato della sua incoerenza Marina candidato reale. Ma perché? Era quello che scaldava il posto, ma qui siamo di fronte, cioè con Totti siamo di fronte alla candidatura di Dudu. Siamo di fronte alla Dudu. Beh, diciamo, non lo so, questo lo dici tu. Vuoi sapere qual è la politica editoriale della di Forza Italia? Qual è? Dico io. Da quando io vi ho mandati a cagare, voi Salva Belva, Belva Radio Belva, eccetera, c'è da parte, credo di Totti, ma di Crip e di altri, un diktat lo sgarbi a Mediaset, non mi hanno mai ma questo lo so, questo lo so, questo lo so, ma non per quello, no, per quello, per quello, per quello, per quello, ma non è che ce l'ho con voi, dico per dire che uno che poteva logico fare un ragionamento a favore di Berlusconi, non come politico ma come vittima di una magistratura, ovviamente non l'hanno mai più chiamato, mai più. Non ti sembrerà che io abbia una certa logica dialettica articolata un po' più di quella di Totti? Se fai così, secondo me sono due cose diverse, però, Vittorio. Per dirti che non può essere politica, dove non capiscono più neanche la comunicazione. Mettono a Totti, doveva stare da brava persona al telegiornale, che io devo dire ho apprezzato e andare con il mio libro da lui, perché su una rete che faceva il 6, il suo telegiornale faceva il 24. L'ho visto come un fenomeno. Poi mi hanno spiegato che ci metteva dentro gossip. Doveva stare lì, ma come puoi prendere uno da lì quando voleva prendere Fede? Se Fede non era stato incriminato, peraltro innocente, perché Fede dovesse fare la battaglia esattamente come l'abbiamo fatta, esattamente come Tortola. Esattamente come Tortola, anche come Biagi, come Insubiazzi, non ha fatto un cazzo, non ha visto figa ed è 7 anni come assaggiatore di che leccava la figa prima di Berlusconi. No, però no, ha ragione, su questo ha ragione Vittorio. No, è una follia, va difeso Fede fino alla morte. Non si possono condannare Berlusconi, non Fede. Fede non assaggiava niente, non portava niente. Adesso, se io presento a Parenzo una ragazza, questa perché passa, scopa con lui, non è che lo chiede a me, pazza, scopa con lui perché passa. E se lui la paga, sono cazzi suoi, se lui la paga. Quella di Fede meglio Fede di Totti, dovendo scegliere un po'. Ma dai giornali, cioè, Sassoli, cioè quando tu prendi uno da era quello lì che poi hanno trovato con i trans, cioè non puoi essere Badaloni, Sassoli, come si chiama quello di prima, che non me lo ricordo già più, quello della Corte della Regione. No, povero Marrazzo. Tutta gente presa dal giornale e portata a fare. Ha senso, allora meglio Parenzo e Cruciani, meglio Feltri. Feltri era un grande candidato. Ma Feltri era un grande candidato. È troppo indipendente, troppa autonomia. Questo è il punto. Allora, mi dirai, Vittorio, dopo il traffico, cerchiamo di prendere una linea migliore perché stasera è scatenato. A questo punto c'è il blocco e Berlusconi, cioè si deve liberare il centrodestra, chiamiamolo così anche se non esiste più. Si deve liberare di Berlusconi, sì o no? Momento clou del finto casaleggio, direi Parenzo, magistralmente interpretato da Andro Mercù, certo. Magistralmente interpretato, io non ho mai sentito casaleggio imitato, effettivamente siamo al top, imitato da Andro Mercù, che intercetta Dario Fo, il quale dice una delle frasi cult, una delle frasi chiave è questa qua. Quale scegliamo? Cioè, gli italiani ingoiano, continuano, cioè non accetta che gli italiani abbiano votato Renzi, Dario Fo, capito? Cioè, gli italiani continuano a ingoiare merda, Fo. Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. La cosa terribile è che autolesionista, una nazione di autolesionisti, che sanno benissimo che la cosa sporca, che le cose non hanno che una soluzione, e però continuano a ingoiare, scusa il termine, ma la merda. È così, non c'entra. No, puoi dirlo, puoi dirlo. Anche ad alta voce. Girati sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Abbiamo con noi Vittorio Sgarbi, capito, ecco. Vittorio? I grillini non accettano che gli italiani abbiano votato Renzi. Cioè siamo a... Ha ragione Dario Fo, non c'è dubbio, ma cioè? Come ha ragione Dario Fo? Sì, nel senso che non puoi accusare gli elettori. Cioè, quando Berlusconi dava dei coglioni agli elettori, diceva la stessa cosa che dice Dario Fo. Può anche darsi che aveva ragione, sicuramente ha più ragione Dario Fo di Berlusconi in assoluto. Cioè, occorre scrostare il potere di qualcosa di cui Renzi in fondo è parte, anche se... No, ma Dario Fo dice che gli italiani non capiscono un cazzo perché non hanno votato i 5 Stelle. No, la stessa cosa, sto dicendo che non puoi accusare gli elettori. Accusare gli elettori è l'errore che ha fatto anche Berlusconi. L'elettore fa quel cazzo che vuole. No, ma è la stessa cosa che diceva Berlusconi quando dice dovete votare tutti me. Sbagliate, se non votate i partiti grandi, se non votate i partiti grandi, dovete imparare a votare. Imparare a votare. Sì, hai ragione. Imparare a votare. Senti, ma il tappo è Berlusconi o no? A questo punto. No, ma che ne so, per quello, per un anti-Renzi, per un anti-Renzi. No, Berlusconi ormai è l'unico socio di Berlusconi. Il consigliere di Berlusconi è molto chiara. Prendere il posto di Alfano, una volta che si è stabilizzata la sua quota, che sarà intorno al 10%, una volta che l'hanno arrestato, cioè qual è il futuro di Berlusconi? Mi piace dirlo. Qual è? Per l'affetto. Esattamente Gelli, è disegnato. Cioè? Tu sai, ti faccio una domanda perché scoprirò che voi non lo sapete. Sicuro. Ma quanti anni è stato condannato Gelli e per che cosa? Credo a nessuno, niente, a credo. Nessuno. No, è stato condannato a 10 anni, arresti domiciliari a Villa Vanda appena finiti, sì. Ma non per la P2. Ah, Salumina. ecco, no, per la P2. Allora, hanno trovato il modo per bloccare uno su una colpa che non gli è stata riconosciuta perché la Cassazione ha prosciolto la P2, ma nessuno... Vabbè, la stessa cosa tu dici con Mediaset, la stessa cosa con Mediaset. La stessa cosa con lui o con Rubi, no, sì. con Rubi gli danno 7 anni secchi per un reato che non esiste, inventato dalla Carfagna e dalla Prestigiacomo. Ma che c'entra adesso la Carfagna e la Prestigiacomo? Il reato l'hanno inventato loro, non c'era! No, la Carfagna, la Prestigiacomo che c'entra? Tu dici no, non ti ricordi neanche questo. Lui presentò, la cosa la dice l'ottimo Travaglio, la legge fatta dalle due, finalmente... Due virtuose parlamentari di grande valore hanno fatto la legge per difendere delle povere ragazze da vecchi malvissuti. Sì, questo me lo ricordo. Beh, vabbè. Pazzo! Allora finirà in galera, che diventeranno, siccome ha 80 anni, arresti domiciliari, e lui resterà non a Villa Vanda, ma a Villa, come si chiama? Certosa, sì, no. Per i prossimi 8 anni. Cioè finirà come Gelli, dici, finirà come Gelli. Esattamente, è disegnato, poi possiamo scommettere quello che vuoi. Cioè isolato, che ogni tanto qualcuno lo chiama e dice la sua. Esattamente. In questa che rivela qualche pseudo mestiere. 88 anni, sì. Lui dovrà per forza passare la mano. Io spero a Fitto, teoricamente, cioè a Renzi. Della... Però Galan ha detto a Salvini, ad esempio. Galan oggi dice Salvini può essere il leader del centrodestra. Sì, ma questa cosa assurda che adesso Forza Italia si butta sui referendum della Lega. Cioè si è buttata sui referendum. È assurdo fino a un certo punto, perché uno è berlusconiano, abolire la Merlin, l'ha fermato anche noi, ma Merlin non può non pensarlo Berlusconi. L'altro abolire i prefetti è tutto sommato una cosa insignificante, la Fornero insignificante, e poi un quarto sono... Sì, vabbè, ma perché non lo facevi prima, dai? Comunque. Vabbè, perché non capisce, perché politicamente non capisce niente, uno che mette Totti, cioè Salvini, ma è uno che pensa. Ma Totti cosa pensa? Pensa adesso di firmare un referendum che io e te, che non siamo leader di niente, hanno firmato 6 mesi fa. Ma perché l'abbiamo firmato io e te? Cioè qualcuno ci ha forzato? Sì, ma io e te siamo andati a firmare per sul referendum sulla prostituzione, tu forse anche per altro, poi anche un altro mi ricordo, c'era quello, ma sì, ma adesso arrivano gli altri, diciamo la verità, adesso erano referendum logici, eliminare i prefetti, poi c'era eliminare qualcos'altro, ma anche ma no, il reato sui clandestini, tutta questa roba. Vabbè, quello lì poteva essere. Senti, ma Berlusconi dice di non avere più soldi, non so se hai letto da qualche parte. Beh, oggi non avrà più soldi per il partito, per qualche soldo per il partito ce l'avrà ancora, insomma. No, non li vuole più spendere, dice addirittura, ma perché li deve spendere? Metteteceli voi per un verso, o per Totti, o per la Gardini. La Gardini, sei anni? Sì. O per Michiché che non è stato neanche eletto? Ma come ti diceva? Uno che candida Michiché è come uno che dice parlate bene di Alfano, cioè non capisce più, finito. Devono mettere gli arresti domiciliari e lo andremo a trovare come uno va a trovare. Senti, nonno. Però pure tu hai preso una botta a Salemi. No, noi abbiamo vinto. Dai, su. Ero completamente solo, figurati la vittoria. Ho capito, non ti sei voluto alleare con Forza Italia, Salemi hai preso una botta. Ma ti pare che mi alleo con Forza Italia perché sono completamente pazzo. Forza Italia, finché esisteva qualcosa che era Lucio Colletti, Tarda, Spannella, era cosa nostra. E c'era anche Parenzo. Dopodiché, no, Parenzo non c'è mai stato. C'era anche lui simpatico. Con i radicali c'era. Da quando mi hanno cacciato, cioè 2001, sono 13 anni, penso. Ti prego di riscontrare che non ho più avuto rapporti con loro di nessun tipo. Rapporti con Berlusconi sì, però. Sì, con una persona, perché per me è innocente. Io lo trovo innocente, cioè per me è il primo contribuente italiano. Sì. E quando sento quelli che parlano da te che cioè, è un evasore, dico sì. Allora, uno che paga 500 milioni di euro e uno che non è un evasore, gli fai una multa per quello che non paga. Non rompi il cazzo ribaltando la verità. Perché ha pagato 500 milioni di euro all'anno. Però, e li ha pagati, scusa, altrimenti evadi tutto. Oltretutto evadere rispetto a uno Stato che butta i soldi nella regione Lombardia, nella regione siamo d'accordo, Piemonte. Siamo d'accordo. Io non li voglio pagare i soldi per quelle merde che distruggono tutto. D'accordo, allora, però Vittorio, saremo noi. D'accordo, Vittorio, però a Salemi tu avevi detto che prendevi il 100%. Diciamo la verità, sì, Vittorio, non mi fai incazzare. Ma perché mi ero appoggiato a te? Tu non hai fatto campagna per me, brutto stronzo, cornuto, rotto il culo, hai abbandonato. Ma c'è... Ma come faccio? Non avevo nominato assessore. Ma come facevo? Altre sfrenatezze. Finocchio che non sei altro. Mi hai tradito. Ma come facevo ad appoggiarti? Una volta mi hai telefonato per dire sarò con te. Rotto in culo. Ma scusa. Però meglio, ti ringrazio perché così la siamo cavata. Neanche un giorno sei andato. Neanche un giorno Cruciani sei andato a Salemi. Neanche un giorno. No, due giorni ho detto porterò Parenzo. Ho detto Parenzo mai. Però Vittorio, ma questi di Salemi, tu hai detto che vuoi cancellare Salemi dalle carte geografiche. No, si è cancellata da sola, hanno messo uno con un nome passivo passato, si chiama Venuti, tipo solo Venuti a Salemi, lui si chiama Venuti. Vabbè, è uno che ha preso i voti, ti ha battuto, dai, staccia. No, su. Ha preso i voti di Forza Italia, quello di Forza Italia. Allora, io ho preso 1500 voti, no? Lui 1800. Cruciani ha fatto l'accordo con questo, secondo sì, me. Quello di Forza Italia, aveva Forza Italia 1400 voti, il candidato 600, gli altri sono andati a Venuti. Hanno fatto l'accordo benissimo, ha fatto benissimo. In compenso noi siamo, tu lo sai, in ballottaggio a Urbino. Che no, era la vera basta, cattura. Non ne posso più, ballottaggio a Urbino. Non ne posso più, non ne posso più. Non votate, non votate Sgarbi. Ti nominerò a Urbino, Cruciani. Ciao, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Amico mio, lì te lo dico da amico. Gatta Cicova lì. Hai fatto campagna per me, brutto stronzo, cornuto, rotto il culo, hai abbandonato, colpa tua è, non avevo nominato assessore al sesso e le altre sfrenatezze, finocchio che non sei altro, ti hai tradito, una volta mi hai telefonato per dire sarò con te, rotto in culo, hai abbandonato, però meglio, ti ringrazio perché così ce la siamo cavata. Era chiaro che si riferiva a te, no, si riferiva a me, per molto carità, bene. È il modo sgarbiano per dire che ti non vuole hai fatto bene. Niente perché mi vuole bene, non certo. Hai fatto nulla però per aiutarmi a Salemi, ma non potevo fare niente, lui mi ha nominato assessore al sesso e alle altre liberalità saresti stato con portafoglio o senza portafoglio? No, credo senza portafoglio, ma alla fine non credo che l'avrei fatto, cioè l'avrei fatto gratis. No, l'avrei fatto gratis, era una nomina, come dire, formale, altrimenti non potevano più condurre la Zanzara se tu sei nominato assessore da qualche parte, credo, certo. Cioè, per cui era chiaramente una situazione incompatibile. Devo dire la verità che lui, il sindaco, non lo voleva fare. Tutti gli uomini vicini a Sgarbi, che noi conosciamo benissimo, hanno esultato, hanno stappato lo tutti champagne. Tutti gli uomini del presidente. Tutti gli uomini del presidente Sgarbi, cioè che noi conosciamo a menadito. Il Grasso, ad esempio, che non è la seconda carica dello Stato, però quel Grasso che conosciamo noi. Meglio lui di Piero Grasso, meglio Giorgio Grasso di Piero Grasso. Non lo puoi dire questo, perché se la gente lo conoscesse. Meglio Giorgio Grasso di Piero Grasso. Ma sei matto? Ma dal punto di vista del Grasso, il presidente della Camera del Senato, ha combattuto la mafia. Che cosa ha fatto Giorgio Grasso? Scusami. Ma per chi non lo sapesse, Giorgio Grasso è un collaboratore, un vecchissimo collaboratore di Sgarbi. Personaggio straordinario. Che è stato, ha avuto anche trascorsi giudiziari, eccetera, eccetera. Però è un grandissimo. Come fai a dire che è meglio lui? Ragiona politicamente molto meglio, te lo posso dire io. Molto più brillante. Vittorio, sei sicuramente all'ascolto della Zanzara. Confermami questa cosa. Meglio Giorgio Grasso di Piero Grasso. Ma non si può dire così. Oh, sentiamoci un po' di scherzo, dai, su, sentiamoci un po' di finto casaleggio che chiama Dario Fo. Un Dario Fo che se la prende con gli italiani e chiama Berlusconi figlio di P. Puntato, avete capito tutti cosa vuole dire? L'abbiamo bippato così, per carità di patria, come dire. Io mi sto chiedendo se abbiamo sbagliato, dove abbiamo sbagliato. No, non è che è fatto proprio la struttura autolesionistica di questo popolo, non c'è niente da fare, perché ormai basta, dico, ha votato per Berlusconi sapendo che era un figlio di ha rivoltato ancora e ha rivoltato ancora dopo essere stato fregato con Berlusconi. Questo qui ne ha fatte più di Bertoldo. Quando tu parli con la gente dici sì, è vero, sì, non ha fatto niente, ha detto santo delle balle, ha promesso, ma si sa benissimo che ora. E poi cazzo, vai a votare in questa maniera, c'è proprio da lasciarsi cadere le braccia. Se ti lasci anche piano, si avvicina. Ancora Casaleggio, perfetto Casaleggio interpretato da Andro Mercù, che chiama Dario Fo. Vabbè, purtroppo abbiamo una nazione che ama così. Sono degli ipocriti. Sì, no, ma la cosa terribile è che autolesionista, una nazione di autolesionisti, che sanno benissimo che la cosa sporca, che le cose non hanno che una soluzione, e però continuano a ingoiare, scusa il termine, ma la merda, è così, non c'entra. No, puoi dirlo, anche ad alta voce. Sì, una cosa incredibile. Ad ogni modo ho notato l'ironia e il sarcasmo con cui entrambi avete preso la cosa, e questo è un segno importante, anche per quelli che come me speravano che ci fosse una presa di coscienza da parte dell'elettorato, invece non c'è stata. Vabbè, aspettiamo. Io... andiamo avanti. Che devi dire, Parenzo? Che devi dire? Non ho capito. C'è qualcosa che devi dire che ti sei tratte che no, ti... non mi sto. Dico semplicemente che in questo caso il buon Dario Fo, premio Nobel, non è che dice cose così distanti da quelle che ha detto dal palco o che ci ridirebbe a noi in qualunque contesto. Lui considera davvero chi ha fatto questa scelta di votare il Partito Democratico la gente così, come la definisce. È così. No, ma c'è un disprezzo nei confronti di chi va a votare. C'è un disprezzo nei confronti di chi va a votare, sceglie Berlusconi. Esatto. Sceglie anche Renzi, ma non è un disprezzo, cioè o con noi. Una parte della sinistra considera, secondo me a torto, perché non è che io sono proprio quello col prosciutto negli occhi, considera chi ad esempio ha votato in questi 20 anni Berlusconi un coglione. Una parte della sinistra considera questo. Dario Fo su questo non è distante, ma te lo dice anche appunto, questa volta però ha trasferito questa sua idiosincrasia, questa sua opposizione, ecco, eccetera. Mi rompe le palle che un Nobel come lui, che mi piace, perda tempo con Casaleggio. Ecco, questo proprio mi manda ai matti. Ho capito, ma questo che vuoi fare, dai? Eh no, appunto, per carità. Ma questo mi fa impazzire. Gli anni, pure gli anni pesano. Ma no, quali anni? Vedi che io intanto mi vengo pazzesco. TG3 prima titoli. Ero qua sotto la radio, TG3, mi ho chiesto titoli. Un caffè. Datemi un caffè subito. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. In Europa si complica la partita per le nomine. Strada in salita per Juncker alla Commissione. Renzi al vertice. Cambiamo l'Unione per salvarla. A Bruxelles, nello stesso giorno, tutti i leader euroscettici, Le Pen a pranzo con Salvini, Grillo con Farage, ma tra gli anti-euro non c'è intesa. Grillo dopo il flop, nessuna vaterlone divisioni, governeremo, è solo questione di tempo, ma nel movimento comincia l'autocritica. Berlusconi smentisce definitivamente le voci sulla successione di uno dei figli, poi l'appello, Forza Italia con l'acqua alla gola, servono soldi. Rapporto Istat, l'Italia fatica a ripartire, 100.000 giovani all'estero, Fitch, il voto positivo per il rating, Padoan svolta per la crescita. Arrivati stamattina in Italia i 31 bambini adottati e bloccati per mesi in Congo, a Ciampino gli abbracci e la gioia dei genitori. Resisteremo fino alla vittoria, dicono i separatisti filorussi di Donetsk, il coprifuoco in città e la fuga dei civili dalle zone dei combattimenti. Vola, vola, vola, vola, vola la primavera. Beh, amici, amici della Zanzara, popolo della radio, mentre il paese sta cercando di uscire da una crisi gravissima, mentre si parla di come trasformare l'Europa, sì, mentre i leader europei, vecchi e nuovi, si incontrano a Bruxelles, Grillo incontra il signor Farage, Salvini incontra la signora Le Pen, e Renzi incontra i capi di Stato, beh, mentre succede tutto questo, magari poi non succede una mazza, anzi sicuramente non succede una mazza, e decidono i banchieri, i finanzieri, la banca centrale, i poteri forti, Bilderberg, eccetera, eccetera. Beh, mentre succede tutto questo, in Parlamento indovina di cosa si parla. Indovina di cosa si parla, amico mio! Delle api? Delle api, che certo sarà un problema, non c'è dubbio. L'abbiamo forse sottovalutato. Un apicoltore ci ha mandato un prezioso regalo. Anche a me, a Parenzo, sì. Una raccolta di cure a base di miele. Beh, vedi. A base di miele. E anche vasetti di miele ci ha spedito. Ci ha spedito e non li rimandiamo indietro. Corruzione, ce li teniamo e ce li bagniamo, questo sicuro. E parliamo male delle api pure. Mentre succede tutto questo, ringraziamo questo signore, adesso non mi ricordo manco come si chiama, neanche lo ringraziamo. Poveretto, neanche il degno di essere citato. No, perché non lo posso citare, che c'è un'azienda, non so di che. Allora, vabbè, comunque lo ringraziamo. Mentre succede tutto questo, in Parlamento parlo di api. Ha iniziato un grillino, in realtà, un grillino. C'è stata un'interrogazione parlamentare, credo di un grillino, no? Certo. Un grillino, interrogazione parlamentare. Come certo, scusi, Grillo. No, Grillo, dai. Le api, ma cosa vivi? Dove vivi? Vabbè, ho capito, le api, le ma api. Se ne devono occupare altre persone, non i parlamentari. Il mondo oggi ovunque è così. In Svezia il Parlamento coltiva le api. Ma dentro no, il Parlamento. Ma no, ma che dentro il Parlamento? Nell'iPad, nella re, tutto collegato. Ma guardate che lo fanno anche in Germania. Ma cosa fanno? Ovunque, ma la cosa? Merkel. Ma cosa fanno in Germania? Ma non ha il culone, ha le api lì dentro. Lei non ha. Voi dite il culone. No, sono api. Ovunque. Nel Bundestag. Bernini, 5 Stelle. L'ape è un insetto sociale. L'ape è un insetto sociale che ha la caratteristica di poter essere allevato dall'uomo ed è diffuso pressoché in tutti i continenti, Italia compresa, dove si segnala tra l'altro il maggior numero di sottospecie selvatiche d'Europa. L'ape è un insetto pronubo che trasporta cioè il polline da un fiore all'altro, permettendo l'impollinazione e la conseguente fruttificazione di piante erbacee ed arboree. Ma non siamo all'università, un corso di non so che cosa, di zootecnia o cose di questo tipo. Non siamo all'università, il Parlamento italiano. Bernini, sei bravissimo, per carità, saprai tutto delle api, ma non ce ne frega un cazzo in Parlamento. Non ce ne frega niente di sentire queste cose in Parlamento. Divento pazzo io per queste cose. I parlamentari non si devono occupare di api, capito? Oh, aspetta, ancora Bernini, sì lo so, mi indicate Bergamini, un attimo, violenti, Bergamini, gente perché... violenta, no, no, ma violenta. Ma sono violenti, le avete sentite? Bernini dice, pericolo incombe sulle api, la vespa vellutina, guarda, poi si arriva veramente a delle follie, la vespa vellutina. Ma li hai votati tu, questi, basta ora, li hai votati tu questi qui, li hai alimentati, tu li hai votati questi qui, basta ora. C'è un'ultima minaccia in ordine cronologico che incombe sull'apicoltura europea ed italiana ed è quella della vespa velutina o calabrone asiatico importato accidentalmente dalla Cina in grado di predare le api e distruggere gli alveari di tutta Europa. Ora c'è uno che mi scrive, adesso poi sentiremo anche la Bergamini, perché è intervenuta anche Deborah Bergamini, portavoce di Forza Italia, di non so che cosa, eccetera, per dire la sua sulla questione api. Va bene. Ma uno mi scrive, non capite un cazzo, Einstein, senza le api c'è l'estinzione dell'umanità. Sì, d'accordo, va bene, d'accordo, ma perché lo devo sentire in Parlamento? Ne parlassero in qualche consesso universitario, in qualche riunione tra esperti, ma non si può occupare l'aula della Camera per parlare di api! Che se in quest'aula si è dibattuto ieri a lungo sul settore dell'apicoltura e se ne stiamo discutendo anche oggi, se abbiamo prodotto, il Parlamento ha prodotto due mozioni in materia, è grazie all'impegno di Forza Italia e grazie all'iniziativa politica di Forza Italia. Forza Italia e le api. Mamma. Vabbè ragazzi, non ne posso più. veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti struzzo l'autan, eh? Guarda, io mi rifiuto di scopare il tablet. Sì, però Feltri ha detto un'altra cosa, che io voglio essere cornuto, questa è eccezionale. Questo è incredibile. Voglio essere, no, ma ha ragione lui. Vabbè, ha ragione lui. Ma se gli piace così, ragazzi, a noi ci piace così. A noi ci piace così. Sì, a me a Feltri piace così, a tanta altra gente. Sarete accontentati. Io voglio essere cornuto. Ah, che meraviglia. Ma sai che questo fatto di essere cornuti è anche eccitante? Vedi che mi è, tu mi capisci. Datemi un paio di corna e vi solleverò il mondo. Facciamo quel che ci pare. Datemi un paio di corna e vi solleverò il mondo. Annuncio ai naviganti, fra poco avremo un grande ospite qui da Zanzara, un ospite anche inatteso, devo anche dire. Dopo le 20:15 avremo Radio Rom, invece, dopo le 20:15. Ma cos'è sto Radio Rom? Che tu hai twittato io non so nulla. Che Radio mai, Rom! Che mi hai combinato? Finalmente Radio Rom! I miei amici Rom che suonano, vedrai. Ma veramente? Video. Certo. Signor Ovidio, a cui oggi ho dato 5 euro un biglietto della metropolitana per arrivare fin qua, è un mamma signore mia, che suona la fisarmonica, che ho trovato a Prati mentre stavo facendo una colazione stamattina. Qualcuno mi scrive: vogliamo parlare del ministro dell'istruzione Giannini, che è rimasto attaccato alla sua poltrona nonostante lo 0,7% dei voti alle europee? Qualcuno ha fatto il calcolo oggi del numero di interviste rilasciate, circa 32 durante la campagna elettorale, dal ministro dell'istruzione Giannini. Beh, Stefania Giannini. Ma no, infatti le dimissioni non c'entrano nulla. No, ma si capisce. Però logica, è anche vero che quel ministero è figlio di un'altra epoca, di un'altra era geologica. Diciamo la verità, ci sono un sacco di miracolati, sia tra quelli che oggi grillini che attaccano Grillo, sia tra i grillini che attaccano Grillo, che sono miracolati da Grillo e solo oggi si accorgono, sì, e non prima, che Grillo, ma Renzi ha bisogno, può sbagliare, comunque, che Grillo può sbagliare. Calmatevi. Sì, al Senato, cioè, ha avrà vinto alle europee, ma il Parlamento non è che è cambiato. Renzi ha bisogno delle NQQ, NCD, di scelta NCD. Civica, di quello, detta quell'altro, anche sciolta civica. Sì, ha bisogno di questo, andiamo a far furbino, cioè sta mica a far furbino, ha bisogno di quelli, è forte ma ha bisogno. Mi segnalano che Andrea Romano ha detto: faremo un'assemblea con i militanti. Ma che ci abbiamo l'audio pure? Sì. Faremo l'assemblea con i militanti. Con i militanti! Quali militanti? Ma perché sarà qualche militante? Ci sarà, scusa. Cominceremo una serie di assemblee sul territorio con i nostri militanti, con i nostri elettori, per vedere cosa fare di questo capitale. Nessuno di noi è interessato. Non c'è più niente. Ragazzi, su. Ma perché non. Cioè, è più degno che uno prenda baracca e burattini e va con Renzi, perché tanto quello è il destino di molti di scelta civica, no? Vanno con Renzi, ci abbiamo provato. Diciamo che gli elettori sono già andati con Renzi. Ora si aspetta che anche la classe dirigente vada e con Renzi. E militanti non ce ne sono, diciamola tutta. Non questo ce ne non sono. Lo so. Io non lo so. Ma no, dai, sappiamo. Su. Red Ronnie, vuoi segnalare qualcosa al signor Red Ronnie? Ecco, signor Ronnie. Ma qual è il nome? Red o Ronnie? Ho mai capito. Dai, io, su. Ogni virus o batterio, dice Twitter il signor Ronnie, ha una sua frequenza. Individuata presenza, si mette in controfase frequenza e lo si elimina. Cioè, allora, i virus e i batteri si possono eliminare non attraverso, con delle, diciamo, frequenze, con delle si mette in controfase frequenza. Magari ha ragione lui, Allora, io non ho dubbi. Se lui vuol farsi mettere delle frequenze, degli elettroshock, vuol mettersi il telefonino della carotide, bene, fai pure, amico mio, fai, mettiti il telefonino della carotide, mettiti a fianco un televisore tutto il giorno, fatti frequentare i tuoi batteri. Io prendo un antibiotico. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, vabbè, allora Mauro da Brescia, Mauro da Brescia, buonasera, buonasera, Mauro da Brescia. Pronto? Sì, vai Mauro, però, vai. Mauro! Mauro! Anna, provincia di Milano, mamma mia. Anna. Ragazzi, ma che succede qua? Anna? Sì, non mi sente? No, io la sento, se lei non parla, forse. No, io sto parlando. Niente, io avevo chiamato perché ho acceso la radio presto. Ho sentito la prima notizia che lei ha dato, ed è quella che riguarda la ministra Boschi, che è andata ad accompagnare quei ragazzi. In effetti è una cosa un po', diciamo, un po' fuori dal normale, dall'utile. Ma il mio commento che mi è venuto in mente al momento. Suo commento, sì. Qual è? Cioè, la cosa che ho pensato è questa. Sì. Ecco, vai a fidarti dei soliti snob di sinistra. All'inizio sembrano come Renzi, poi alla fin fine hanno sempre questo comportamento un po'. Ma qual è il comportamento in questo caso? Scusi. In questo caso un po' buonista, un po' sempre. Ma buonista, in questo caso il buonismo non c'entra niente. Attenzione agli altri quando non sempre c'è, di far vedere che noi dobbiamo andare fino in Africa per prendere questi bambini quando magari. No, però scusi, in questo caso però il buonismo non c'entra niente. Qui ci sono delle famiglie che hanno adottato dei bambini in Congo. Ci sono state delle difficoltà burocratiche, politiche col Congo, eccetera. Alla fine, con un lungo percorso che è iniziato dai tempi del ministro Chiesa e poi è andato oltre, con alti, bassi, eccetera, eccetera, questi bambini sono arrivati in Italia. Quindi il buonismo non c'entra nulla, niente. Si è criticato, abbiamo criticato il fatto che sì. Il ministro Boschi, che non c'entra nulla con i bambini, con la vicenda dei bambini, perché ha fatto ministro dei rapporti con il Parlamento e delle riforme, quella che per bocca di Renzi dice qual è la posizione del governo sulle riforme, decidono gli altri, lei non è che decida molto. Comunque, al di là di questo, è andata ad accogliere i bambini, ha viaggiato con i bambini, foto, mani che si intrecciano nei capelli della Boschi. Io per buonismo, ma non c'entra niente il buonismo in questo caso, il buonismo è un'altra cosa, in questo caso c'è proprio lo spot elettorale. Cioè, allora è anche peggio. No, elettorale no, perché non ci sono più le elezioni. Insomma, farsi fotografare quando uno scende la scaletta, secondo me non era il caso, dopodiché poi chi se ne frega. Ecco, era quello bene, che volevo grazie. Sottolineare. Ho capito, l'ho spiegato io. Mauro da Brescia. Mauro, c'è Luciani, o non c'è? Ecco. Luciani. Oh, finalmente, vai. Ciao. Dovresti ringraziare gli amici tuoi di questa situazione, lo sai? Quali? No, spiegami bene, scusa. Lo spiego subito. Dimmi. Per colpa dei tuoi amici froci? Sì. Che è successo? I bambini sono rimasti bloccati. Ah, perché c'è stata la vicenda, non era solo quella la cosa. Ma ti rendi conto? Vabbè, perché alcuni hanno fatto i furbi dal Canada, omosessuali, hanno adottato dei bambini in Congo, poi li hanno portati in Canada dove convivevano con degli uomini o con delle donne, adesso non lo so, e dunque il Congo a un certo punto ha bloccato tutto. Ma si dovrebbero vergognare però. Vabbè, quelle singole persone, non i gay, non i gay in generale si dovrebbero. E poi volevo dire a Parenzo che ieri parlavamo del rame, quelli che rubano il rame, no? Sì, però è vero, rubano il rame. Oh, vabbè, sì, ruberanno anche il rame. Parenzo, io so tutta la notte che controlliamo i cimiteri per quel motivo, lo sai? Tutta la notte. Va benissimo, allora mi dispiace, questi qui ruberanno il rame, vabbè, d'accordo, rubano il rame. Ora, far diventare questo il problema nazionale, come al solito, è una roba incredibile, va bene, mettete in custodia i cimiteri, ma sì, ruberanno il rame, d'accordo. No, ma tu lo sai che nel Bresciano si può andare a fare la spesa che ti spariscono le grondaie? Lo sai questo? No, ma è vero, c'è in alcuni posti d'Italia anche le grondaie, ho capito. Se 40 sono meno di 30.000 persone, questi rom. Allora, 30.000 persone costituiscono un problema? Sono soltanto rom che lo fanno, lo sai? Li prendiamo noi, non ti preoccupare. Sì, molti sono rom. Ma questo qua bisogna dirlo. Ma mica per una questione. No, è la verità. Rubano il rame, sono specializzati nel rubare rame. Magari poi saranno gli italiani. In un'altra, fra 20 anni saranno gli italiani. Ma trovati italiani in 20 anni, Cruciani? Mai trovati italiani in 20 anni? Sono tutti rumeni. Vabbè, grazie amico mio Mauro, grazie. Andiamo a Paolo da Bari. Buonasera Cruciani. Paolo, dimmi. Allora, senti, volevo dire una cosa, ma non tanto a te, perché ma più al tuo amico. Questi grillini che io non vado a votare, premettendo, non vado a votare da 10 anni. Vabbè, ma questo qua non è un punto d'onore il fatto che lei non va a votare da 10 anni. No, ma lo sai Cruciani, perché quando poi questi risultati, ma niente, nulla togliendo al... perché comunque alla fine questo Renzi sembra chissà cosa abbia fatto per avere tutti questi voti della storia eccetera, comunque non vuole entrare in merito al PD, volevo solo dirti un'altra cosa, che questi grillini alla fine che ben vengano, perché comunque noi volevamo la gente pulita, volevamo persone preparate, volevamo persone amiche sono sparite che... infatti oh. Fammi finire, non mi ma ci sono amico mio, non è che sono spariti, però fammi finire il concetto poi rispondi, sì, magari. Ma non è questione di concetto o non concetto, è vero? No, fammi finire però, e poi magari finisce, mi devi rispondere. Io d'accordo. Quello che voglio dire, caro Cruciani, per esempio, cioè oggi quando accendi la TV le persone si uccidono, si ammazzano ogni giorno perché non vanno avanti. Allora già per un un fatto di dignità, di morale. Questi ogni mese con un click ridanno 18.000 euro indietro. Sì, però non è che è l'unica polponi, politica, guardi. E non è politica, ma no, è un segno di dignità. Io sono d'accordo con lei su una cosa. Quando il puzza dalla testa. Tu che fai in un paese che dovresti essere un padre e noi tutti quanti figli, che fai? Mangi tu la ragosta e gli altri li fai morire. Sì, non però, è questo. Allora, è importante alla sua morale, perché gli altri che non hanno fatto hanno preso un mare di voti, un botto di voti, e questo Renzi. No, io sono d'accordo. Io sono d'accordo con lei sul fatto che restituire i soldi del finanziamento pubblico è stata cosa buona e giusta, però non è che l'unica cosa può essere quella. Cioè, non è che uno dice però abbiamo fatto quello, allora siamo più puliti degli altri. Non basta, bisogna fare anche politica, bisogna inserirsi nelle varie questioni, cosa che mi sembra che lì non abbiano fatto. Cioè, e questo è il punto fondamentale. Ora c'è un'autocritica, mi sembra, da parte di alcuni che dicono, beh, forse era il caso su alcune partite di entrare, di dire la nostra, di metterci a un tavolo. Alcuni lo dicono, Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Pubblicità. Definito da Yellow Times come il primo conto corrente che ti dà 3 buoni motivi per cambiare banca. Che Banca presenta Conto Yellow, interessi trimestrali, accesso ai fondi più gialli del mercato, bancomat innovativo per i tuoi acquisti online. Conto Yellow, tutto il giallo in un conto. Aprilo ora, fino al 31 dicembre 2014 il canone è zero. Foglio documento informativo su chebanca.it. Interessi su giacenze medie trimestrali non vincolate maggiori di 5.000 euro. Che Banca, scegli il giallo. La Zanzara. Siamo con noi e sono molto contento di averla qui dopo tanto tempo. Cécile Kyenge, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Senta, mi dice europarlamentare del Partito Democratico da qualche giorno, ex ministro. Senta, com'è la pronuncia esatta del suo cognome, onorevole Kyenge? Kyenge. Kyenge. Kyenge. Finalmente. Kyenge. Vuoi mettere il nome Kyenge, ad esempio, con quello Salvini, ad esempio? Buon anno. No, Salvini è un bel cognome. Che c'ha Salvini? È molto più italiano. Eppure Kyenge. Erano scritte in 92.800. 92.000 persone. Brava. Allora, bisogna dire una cosa, che esatto, è stata sempre attaccata, perché uno dice l'ha messa lì, la lista bloccata, poi messa al ministero, eccetera. No. Però poi si è candidata e 92.000 persone hanno scritto Kyenge, che non è manco facile, è più facile scrivere, che ne so. Rossi. Toti anche, no? Più facile, certo, scrivere, sì. No, Kyenge, pure con uno deve proprio volere scrivere Kyenge con la Y, eccetera, non è facile, no? Ne hanno annullate tante, no? No, non credo. Sì, sono state annullate comunque delle schede, non so quante, ma sono state annullate, ma nonostante quella, devo dire, sono quasi 100.000 persone, cioè come a pensare, per me è una cosa emozionante. Come ma... il Maracanà, come uno stadio, come, certo, come il Maracanà. Beh, io certo, penso a una persona che entra convinta e scrive a Kyenge, vuol dire che ha le idee chiare, vuol dire che vuole comunicare qualcosa. Ah, questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Senta, ma io le chiedo una cosa, che sarà con Salvini lei lì al Parlamento europeo, con Salvini che ha incontrato alla trasmissione della Innocenzi qualche giorno fa. Lei probabilmente ci sarà anche Borghezio. Le faccio subito una domanda molto diretta, onorevole Kyenge, che è questa: ma lei stringerà la mano a Borghezio oppure lo considera proprio un razzista? Ma oddio, non c'entra niente con lo stringere la mano, cioè uno se è razzista, razzista è, li posso anche stringere la mano, cioè nel senso non gli cambia niente. Io la mano la stringo alle persone, normalmente a tutti, a cioè tutti, perché sì. Diciamo che la mia figura è questa, o mi ami o mi odi, cioè, purtroppo ci sono quelli che si sono attaccati alla mia figura odiandomi, ma c'è una marea di gente, come hanno dimostrato quasi 100.000 persone, che mi amano, perché entrare e scrivere un nome così difficile mi amano. Senta, o mi ami o mi odi. Ma chi è che la odia? Cioè, per esempio, io tornando alla domanda iniziale che le ho fatto, Borghezio, che lei molto probabilmente, perché ancora bisogna decidere qualcosa entrando alla Lega, troverà come collega al Parlamento europeo, e lì è diverso già dal Parlamento italiano, perché a parte che Borghezio non è Parlamento italiano, perché quando si incontrano le persone sono molto più a contatto, soprattutto gli italiani, che sono di meno, sono una settantina. Ecco, ma lei lo considera un razzista? Beh, diciamo che ha delle idee molto guarda al micro, un territorio molto piccolo, invece bisogna alzare lo sguardo, andare fuori, guardare anche lontano, bisogna essere lungimirante, guardare. Cioè un uomo piccolo, lei dice, signor. Ma no, un uomo piccolo, piccolo no, perché è grosso, diciamo. Di mente piccola. No, è piccolo, proprio non si può dire piccola la signora Kyenge, cioè. Bisogna alzare lo sguardo, guardare oltre, non aver paura degli altri, non aver paura del futuro. Mi dica la verità, lei lo considera un razzista? Cioè, diciamolo adesso, noi siamo qua in una trasmissione in cui si parla anche in maniera chiara, cioè lei lo considera un razzista? Lo so che non è un liberale lui, insomma, Borghezio. Oddio, se devo giudicare dalle cose che fa, dalle cose che rilascia, da quello che fa vedere, è chiaro che sembra l'identikit di un razzista, ma sicuramente, però io lo giudico per le sue azioni, le sue parole, insomma. Ecco, ministro Chiang, onorevole Chiang, ma che deve fare di più Borghezio per essere classificato un razzista? Ha spruzzato, come si dice, le cose in un treno, scherza con la questione delle banane, cioè c'è qualcosa che l'ha offesa anche nel profondo, dice mamma mia, mi ha proprio disgustato di quello che la Lega ha detto contro di me, c'è qualcosa che l'ha proprio disgustata, offesa? Ma guarda, il punto è questo, che secondo me bisogna anche considerare una cosa. Una persona che si sveglia la mattina, sì, e va, cammina per la strada, magari non si conosce chi sia, così, è un conto. Una persona che siede all'interno delle istituzioni, che ha un ruolo, che è un leader politico, sì, deve anche considerare che non lavora per se stesso. Quello che dice non è che rimane all'interno di una stanza, ma ha una potenza forte. Cioè, lei sta dicendo che alcune parole della Lega hanno alimentato il razzismo in Italia, questo sta dicendo? Ma molte parole, diciamo, non sono state così, così dolci. Faccio l'esempio di quello che è uscito, una cosa nuova, forse non quella di oggi, quella di oggi di Barbara Beggi della Lega, il consigliere, che ha detto Chiang è un cesso, una cosa del genere, mamma mia, e Boldrini mongoloide, sì, però diciamo quelli sono casi diciamo, eppure appartengono a un partito, cioè, sì, è vero, è quella che sto dicendo, cioè, ricapitoliamo un po' quello che è successo. Ricorda le parole di questi, io fino adesso non l'ho detto perché sono stato preso da altri argomenti, una consigliera, credo locale, consigliera comunale a Castelfranco Veneto, che pure un paese importante effettivamente. Sì, dove abbiamo vinto come PD, alla grande, abbiamo vinto le elezioni, vuol dire che l'elettorato tutto sommato non la pensa come questa signora qui. Non la pensa, ma lo dimostra. Allora, Barbara Beggi della Lega Nord ha detto: le disgrazie non vengono mai da sole, in Europa saremo rappresentati da questo cesso, e c'è la foto della signora Chiang, la foto della signora Chiang. E poi ha parlato anche della Presidente della Camera, eccetera, eccetera. Ecco, lei dice, questa qua è la Lega. Fa parte di un partito, è chiaro che la Lega deve prendere dei provvedimenti, io da tanto tempo che lo dico, se uno deve prendere, deve allontanarsi da un identikit. Cioè a Salvini, che lei ha conosciuto, dice questa qua deve essere cacciata su due piedi, lo dica. Deve valutare il suo partito, capire ci sono dei limiti, delle cose, perché questa è una persona che siede all'interno dell'istituzione. E dunque secondo lei deve essere almeno cacciata dalla Lega o no? Si aspetta questo lei? Una che la chiama cesso, onorevole Chiang, una che la chiama cesso. Adesso noi possiamo essere anche rudi in alcuni casi, però non ci permetteremo mai di parlare di qualcuno come un cesso e come eccetera. Si è superato un limite, insomma. Il peso delle parole, cioè quella che sto dicendo, il peso delle parole, devono prendere dei provvedimenti, cioè nel senso, se non lo prendono vuol dire che sicuramente questi episodi si moltiplicano e caratterizzano poi una forza politica. Senta, lei ha paura? Si fa ben presto a farlo, cioè non... Lei ha paura, arrivando al Parlamento, cioè, ha paura della signora Le Pen? Cioè, le fa paura un'Europa dove insomma il peso del fronte nazionale della Le Pen è grosso? Cioè, io mi sento anche, sono anche molto stimolata a queste sfide, perché io vado per oppormi proprio a questa deriva che evoca tristissimi ricordi, un passato di violenza, ma fascismo, che sono anche violenza verbale, ma... cioè dobbiamo andare oltre, quindi la mia presenza lì, oltre a tutti i punti insomma del mio programma che ho presentato, ma è proprio questa, quella di andare, di guardare oltre e di dire che noi abbiamo bisogno di un futuro di benessere e di pace. Voglio sfidare la Le Pen, lei dice. Perfetto, sì. Con gli e spiegarle che gli immigrati fanno bene sia alla Francia che all'Italia. Questo. Sì, ma non lo devo spiegare perché lo sa benissimo, cioè nel senso che è una persona abbastanza intelligente, lo sa benissimo, semplicemente utilizza i dati che devono andare a favore della sua battaglia. La mia è un'altra, è quella di cominciare a dire, cambiamo, affermiamo culturalmente che l'Italia, come l'Europa, il futuro dell'Italia secondo lei è multietnico, il futuro dell'Italia è questo? Cioè l'Italia è già multietnica, diciamo. Lo deve essere ancora di più, dice lei. Multiculturale, sì, deve essere ancora di più. Lo è già, cioè chi lo nega non vede l'evidenza. E dunque secondo lei lo deve essere sempre di più? Deve essere sempre di più un'Europa aperta, un'Italia aperta e inclusiva, che deve essere forte e solida. Cioè, questa è senza dubbio, perché le monoculture non hanno mai fatto grande. Cioè, in Italia ci vogliono più immigrati, dice lei? No, cioè, questa non dico ci vogliono più immigrati. Eh beh, io sì o no? Cioè, no, queste sono associazioni tirate così, insomma, per. No, è una domanda, ci vogliono più immigrati. Io dico semplicemente che bisogna cominciare a gestire diversamente un tema che non è quella della chiusura delle frontiere. Bisogna cominciare a gestirlo diversamente, perché non possiamo fermare l'immigrazione. Fermare l'immigrazione. Però possiamo dire una cosa, signora Chieg, onorevole Chieg, gli immigrati hanno portato un po' di ricchezza in questo paese. Chi è che mi chiama? Ma chi è? Che ne so, non lo so, qualcuno ma mi chiama. Ma cos'è sta roba? Ma qualcuno mi chiama, che ne so. Ma cos'è? No, non posso dire chi è. Non posso chi è? Dire chi è. No, scusa, come lo fai sempre? Di chi ma è? Ma non posso dire chi è. Di chi è, coniglio? Ma di non lo posso dire chi è, raga. Sarà qualche ricattatore, sono le mie fonti, le mie cose. Sarà qualche ricattatore. Ma sono una cosa di vita privata, lascia perdere, dai. Senta, ma a proposito, ma lei ha... Allora, gli immigrati portano ricchezza, diciamolo, però, onorevole Chieng. Cioè, bisogna anche rimarcarlo, perché c'è una che si occupa di immigrazione. Uno che si occupa di questi temi e qui sottolinea che io mi occupo non solo dell'immigrazione ma anche di tanti altri temi, sanità, giovani, ma parlando di immigrazione, 2 milioni e 300 mila lavoratori di origine stranieri che versano alle casse dello Stato, portano ricchezza. Cioè, tra il versamento dei contributi e il pagamento delle tasse siamo circa 13 miliardi. Allora, il saldo tra quello che spendono e quello che versano, quindi contribuiscono allo Stato, è positivo di 1 miliardo e 400 milioni. Per cui più immigrati ci sono, meglio è, dice lei. Io sto leggendo le statistiche e dico, questi sono i conti. 1 miliardo, il saldo è positivo, 1 miliardo e 400 milioni di euro in più. Cioè, chi fa le statistiche e chi le sa interpretare capisce che insomma ci sono... Torniamo tra un attimo, torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. Allora, c'è qualcosa che non funziona. Zanzara! C'è una zanzara! Beh, cari amici, dopo tanti leghisti qui alla Zanzara, Parenzo vi rimprovera sempre, basta persone della Lega, eccetera. Basta. Questa sera Cécile Kyenge, europarlamentare neo eletta a Strasburgo, a Bruxelles. La domanda è questa, quella principale. Ma scusi, se lei era così importante come simbolo, eccetera, secondo il governo Letta quando fu nominata ministro, perché poi all'improvviso è tutto finito, sto ministero non c'è più e lei sostanzialmente è stata prima messa da parte come ministro, poi per carità è stata candidata, ha preso 90.000 voti. Adesso, al di là di queste questioni qui, ma o era importante prima oppure dopo è successo qualcosa? Scusi, ma qui, secondo me si sono fatti tanti film. Nel senso che parte il tema dell'integrazione che presso il Ministero del Lavoro e quello ho capito, ma ci voleva, doveva rimanere il Ministero secondo lei? Ma il tema c'è, nel senso che io ho accettato di fare un'altra sfida, quella di andare in Europa. Vabbè, d'accordo, però per la prima all'interno volta di un progetto anche di semplificazione, di perché qui non si parla solo di integrazione, ci sono anche tante altre deleghe come quella delle politiche giovanili. No, vabbè, d'accordo, però serviva il suo ministero, un peccato che l'abbiano chiuso, appunto, no, alla fine. Ha sbagliato Renzi a sopprimere il ministero, era anche un simbolo, no? Ma lui sta lavorando seguendo uno schema, anche quello di poter agevolare la burocrazia, insomma, e tutto. Quindi il tema c'è ancora. È chiaro che... Sarebbe servito mantenere il ministero, secondo lei? Diciamo la verità, mi dica sinceramente come la pensa. Tanto ormai è stata eletta al Parlamento Europeo, gli frega 5 anni sicura. Forse sì. Non gli possono fare più niente. Che gli frega? So, che 5, gli frega? 5 anni blindati là, che gli frega? No, senso, no, è che si fanno comunque tanti film, osservazione. Per me il punto è... Ma ha sbagliato o no Renzi? Ministro, io lo capisco. Ha sbagliato o no Renzi a sopprimere il Ministero? Ma non è una questione di sbagliare, è una questione di ogni persona. Ma la sua valutazione qual è? Che il ministero doveva rimanere, quel tipo di ministero lì? Beh, sì, l'ha fatto il ministro, mica pensava di essere inutile, scusami. No, e che ne so io. Beh, oddio, cioè se uno fa un ministro, accetta di fare un ministro, è chiaro che per quella persona il tema è importante, cioè come è importante tuttora che lo porti in Europa, che poi le valutazioni cambiano da persona a persona, da governo a governo. Non me lo vuole dire. Ma scusi, facciamo tre nomi, le faccio tre nomi. Che nome Bossi, fare? Salvini, Gasparri. Chi è meglio sui temi dell'immigrazione? No, vabbè, Bossi, ma che Salvini è troppo facile, o dai. Gasparri? No, tra questi tre ce ne sarà uno. Uno. Scusa, non ha un altro nome da propormi. Senta, ma a proposito di Calderoli, per esempio, della vicenda Lorango, ma alla fine è andata in tribunale lei per quella roba lì? Beh, sì, cioè nel senso che il tribunale di Lorango, sì. Sì, il tribunale di Bergamo è andata avanti con Sì, autonomamente, sì, lei non l'ha querelato, sì. No, perché? Io no, perché ritengo che comunque ogni persona deve cominciare a fare un attimo il punto, perché il problema qui è culturale. È un problema culturale in cui anche da un punto di vista della politica, insomma, non c'è ancora quella consapevolezza del ruolo che uno deve avere quando risiede e occupa un certo livello, sapendo che deve è anche educatore. Però Chieng, io ho detto una cosa, quando ci fu l'accusa nei confronti di Calderoli su questa cosa dell'Orango, io ho detto è sbagliato portare uno in tribunale per una cosa di questo tipo, cioè ci sono delle valutazioni politiche, per carità, avrà esagerato eccetera, però addirittura in tribunale, lei se lo immagina perdere tempo eccetera i processi perché ha detto che la Chieng assomiglia a un orango? È una cosa, per carità, spiacevole, adesso non lo devo dire a lei ovviamente. Guarda, cioè, adesso ho tirato fuori un tema che in Italia dobbiamo ancora fare tanta strada. Io guardavo il presidente dell'NBA, cioè una che per una frase un proprietario dei Los Angeles Clippers, no, presidente dell'NBA, proprietario dei Los Angeles Clippers, che è stato giustamente, dice lei, negli Stati Uniti per una frase razzista è stato praticamente escluso dal mondo del basket, diciamo la verità, no? Perfetto. Per cui secondo lei dovrebbe succedere la stessa cosa per alcune frasi? Secondo me dobbiamo cominciare a mettere i limiti al linguaggio, ai comportamenti, perché troppo è troppo, cioè cadiamo nella volgarità, cadiamo nella diffamazione, cioè noi dobbiamo fare ancora culturalmente un passo avanti su questo, perché si è vista anche nella campagna elettorale, si sono utilizzati toni che sono fuori da ogni limite immaginabile, cioè Grillo? Grillo per esempio? Ma anche, cioè anche lui ha utilizzato parole come la lupara bianca, cioè noi dobbiamo dare un limite, limite comunque al nostro linguaggio, un limite alla violenza verbale. Senta, lei si è riconciliata con suo marito? Scusi, io vediamo, ma io sono molto, sono amico di suo marito, e siete stati voi a tirare fuori questa cosa, non noi giornalisti. Che tifa per Domenico, certo. Io tifo abbastanza per Domenico, non è che tifo per Domenico, è che mi sta naturalmente simpatico perché il suo accento emiliano è uno che parla anche liberamente. Ma come vanno i rapporti lì, sinceramente, ormai? Sinceramente. Bene. Ma insomma, vedo che insomma ti fa molto per Domenico, è chiaro che del mio privato ne parlo di ficcione, il mio privato. Beh, l'ha parlato qualche volta, lei ne ha parlato qualche volta, non sì, è che non ne ha parlato. Nel senso che ho sempre detto chiaramente che cioè insomma, i rapporti sono tornati normali oppure c'è ancora un po' di maretta. Di maretta, ecco. Ma no, cioè è anche un po' cioè non vi siete separati. È una famiglia che da un giorno all'altro diventa così sotto la luce dei riflettori, ma è chiaro che insomma, tutto quello che bisogna adattarsi velocemente. Io in 15 mesi sono passato, cambiato, sono stata soltanto professionista, deputata, ministro, adesso ero deputato e fa un po' fatica la mia famiglia a seguirmi. Per cui, ma non ho capito, vi separate sì o no? No. No, cioè siamo insieme. Cioè non... Oh, non vi separate, questa è la notizia, volevo sapere. Beh, questo è rassicurante. O no? Sì, cioè io penso che non le cose, poi la vita... Bisogna riuscire non ad adattarsi, a dire... ad adattarsi. Un punto di mediazione. Sì, vabbè, cioè voglio chiedere l'ultima cosa, Cecil. No, no, che ultima cosa? No, c'è la parola negro. Ma no, la parola negro. Scusa, no, sì. Beh, la parola negro è fondamentale. Allora, c'è stata la questione che oggi è uscita fuori di un documento che è stato firmato anche da lei in cui compare la parola negro. Secondo lei la parola negro si può usare sì o no? Oppure è un'offesa che non dovrebbe essere cancellata? Ma dipende dai contesti, cioè nel senso. E nella letteratura insomma la parola esiste, ma si riferisce comunque per cui non è un'offesa se io le dico lei è negra, se io sono nera di beh no, no, se io le dico lei è negra, la offendo? Io preferisco che mi chiami Nera. Nera, perché... però vede che pure lei è soggetto un po' politicamente corretto, perché la parola negra viene utilizzata in altri contesti quando non sono offensivi, ma tranquillamente. Oppure lei pensa che sia offensiva la parola negra? No, cioè nel senso, come viene utilizzata adesso, è un po' come la parola clandestino, no? Cioè, che chiaramente la parola clandestino è uscita fuori dal suo significato. Cioè, oggi si usa per esempio clandestino per dire tutto, criminale, per gli irregolari, per i criminali, per i delinquenti. E così come è stato anche fuorviante l'utilizzo della parola negro, negra, cioè che a proposito il mio stretto collaboratore si chiama Negro, di cognome. Però scusi, scusi Chienghe, scusi un attimo. Lei è permesso, lo possiamo chiamare Negro. Però nel documento, in un documento che non mi ricordo che cos'è che è uscito fuori oggi sul Libero. Praticamente io ho presentato un disegno di legge che è un disegno di legge che deve abrogare o modificare tutte le norme discriminatorie all'interno del... Però là compare la parola negro dentro di questo disegno del nostro ordinamento, dove cioè si vede che Libero, che ormai senza di me fa fatica, perché si vede che mi ama a tal punto che senza cioè di fanno me fa fatica, fatica a vendere copie senza se hanno lei non bisogno del nero per vendere copie, diciamo così, a Libero. Cioè, nel senso che tutto quello che faccio è stato strumentalizzato, cioè di tutto. Quel disegno di legge è importantissimo, per esempio si sono perse anche delle cose come dentro alcuni settori, cioè hanno sbagliato ancora... tutto, hanno sbagliato a interpretare questa roba. Dentro esiste ancora l'appartenenza alla razza ariana, perché non l'hanno tirato fuori. Ma lei la offende essere definita di colore, per esempio? Non mi offende, ma è sa di ipocrisia. Cioè io dico una cosa, quando ho iniziato il mio mandato, ho iniziato con due parole dicendo io sono nera, perché volevo chiaramente dire usciamo fuori dall'ipocrisia, usciamo fuori da quello che può essere qualcuno che si sente, che non si sente a suo agio, perché io sono a mio agio, sono nera, cioè come guardare voi vi dico siete di colore, ma insomma... siamo di colore bianco, dice lei, o roseo. Sì. Però adesso non bisogna nemmeno esagerare. Secondo, quando uno dice di colore, non è per dire per lei so. Dice dipende, però. Sì, però anche quando io dico negra, se io dico la signora Chienghe è una negra, non lo dico perché dico brutta negra, sporca negra, lo dico perché magari viene più facile. Non so come dire, cioè veramente io non l'ho mai detto, però io lo posso utilizzare. Ma quella là si ma utilizza, la devi qualificare come ma nel nera. Linguaggio corrente si utilizza. Non bisogna nemmeno esagerare. Io non ho nessuna, io sono la persona più antirazzista che c'è in Italia. Immagino molto più degli antirazzisti militanti, perché sono antirazzista su tutto, però mi posso prendere a volte mi è venuto un dubbio perché troppi leghisti lì da voi. Vabbè, ma che c'entra quello? Però ho cominciato a dubitare un po'. Però le dico brava Cecil, non c'è nulla di cui dubitare, però le dico una cosa, mi posso prendere il diritto senza essere accusato di essere razzista di... Ma se ti ha detto di no, che se offende, scusa, se offende, vabbè, se si offende che se ne frega. Ma si offende veramente se io dico lei è negra? Ti ha detto di sì. Ma dipende da come... Da come glielo dico. Sì, dipende anche dal contesto. Poi non so perché si ostina a non chiamarmi nera. Io dico... È così difficile. Io sono colore. Nera. E ormai, Cucciani, lei diventa viola, diventa rosso, diventa bianco, diventa blu. Io sono nera e basta. Questo è vero. Cioè, lei... Voi avete un, avete un vantaggio voi. Sì. Cioè, il vantaggio, voi neri, voi di colore. Certo. Di quello che non cambiate, mai... Invece noi siamo un po' sfigati. Quindi siamo inferiori perché noi cambiamo colore, invece. Beh, oddio, non inferiori. Abbiamo una... diversi noi. Sì, siamo diversi, cioè ci scopriamo subito quando siamo emozionati, ci scopriamo, perché magari no, ci diventiamo rossi, invece lei non si fa scoprire. Avete un vantaggio da questo punto di vista, o no? Diciamo che Nel PD c'è qualche razzista secondo lei? Diciamo che non è proprio un vantaggio. Siamo fatti così, siamo diversi. Vabbè, questo l'ho capito. Le chiedevo se nel PD c'è qualche razzista secondo lei. Esistono anche nel PD i razzisti, le persone, i pregiudizi esistono anche nel Partito Democratico? Ma sai, io questo tema non lo faccio, cioè non è un partito è razzista o un partito non è razzista. No, ho capito, ma nel PD, cioè nella sinistra, esiste i pregiudizi, sono solamente nella Lega a destra oppure esistono anche... No, ma sono dappertutto, da destra a sinistra. Anche nel PD lei ha dovuto affrontare vari molti pregiudizi da questo punto di vista, o no? Li ha affrontati dentro il PD, magari ma li ha sentiti e non li ha incontrati, però sicuramente non c'è un luogo dove non ci siano, sono dappertutto, insomma. Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere, che è questa, a parte la questione della Ius Soli, che è una questione lunghissima, lei è ancora favorevole, sì, allo Ius Soli, sì? Certo, ma non ci sarebbe la famosa, non ci sarebbe l'invasione dei migranti, come dice, l'invasione delle persone che vengono a nascere in Italia? Ma no, perché chi l'ha portata avanti, perché non ha capito, non è andata fino in fondo. Qui si parla di Ius Soli temperato, cioè... Vabbè, sempre Ius Soli è. No, c'è una differenza. Il professor Sartori dice che lei non capisce niente di queste cose. Il professor Sartori. Sartori mi sogna anche di notte. All'incubo Chieng di notte. Sì, mi sogna. Io ho detto prima, c'è chi o mi si ama o si odia. E lui mi sogna anche di notte. C'è la odia. La odia, insomma. È uno di quelli che la odia, vabbè. E sono diventati il suo incubo, però insomma. Senta, la Boschi che porta a casa con tanto di foto i bambini dal Congo, non è uno di cattivo gusto? Non entro nella questione di chi ha iniziato il percorso, il governo Renzi, che adesso ottiene chiaramente un successo, eccetera, questa è una questione troppo lunga da analizzare. Però dal punto di vista, come dire, dell'immagine, no? Un ministro che accoglie i bambini, le treccine, forse non era il caso, anche perché lei che c'entra con i bambini? Ma perché non può farsi le treccine? No, parliamo seriamente, cioè dobbiamo essere felici che i bambini sono qui in Italia, in famiglia, a casa. Io vedo il risultato finale, questo. No, d'accordo, ma come ha trovato l'atteggiamento del ministro Boschi? Normale, secondo lei? Cioè farsi fotografare così, cioè, spontaneo oppure un po' costruito? Io trovo, cioè non seguo... poco su questi particolari, perché sono concentrata sui risultati, però dico le trecce, le treccine, oddio, libero di farsi le treccine, però non... Ma voleva esserci lei su quell'aereo? Le sarebbe piaciuto essere su quell'aereo e riportare i bambini? No, bisogna distinguere quello che ha la cosa personale da quella che è una cosa istituzionale. Io nel senso, credo che qui l'obiettivo principale è stato raggiunto. Era quello di portare i bambini. Senta, un'altra cosa è questa. Molte volte nel passato, adesso ho l'occasione di chiederglielo, lei pensa davvero che la poligamia sia qualcosa, ovviamente non è che può essere in Italia, che la poligamia sia qualcosa di giusto, eccetera, che bisogna rispettarla? In alcuni paesi culturalmente accettata. Lei quanti fratelli ha? Noi siamo 38. 38, fratelli. Cioè è una cosa secondo lei da accettare? Guarda, io sono cresciuta in una famiglia poligamica, sì. Ma sono sempre stata quella che l'ha sempre combattuta, in tutti i modi, in tutte le salse. E mi sono sempre battuta contro la poligamia, perché non la condivido, pur essendo cresciuta in una famiglia poligamica dove ho ottimi rapporti con tutti i miei fratelli, ma il problema non sono quelli che sono nati. No, beh, certo, quelli che sono nati che c'è. Il punto è un altro, il punto sono le mogli. Bisognerebbe superare la poligamia. Anche in quei paesi. Io è una battaglia che ho sempre fatto, prima, dopo, attraverso le donne che sono in Africa. Ma scusi, attraverso... ma come fa con tutte quelle mogli? Ma questo mi incuriosisce veramente. Cioè, già una è un problema, no? Ma come si fa lì proprio con tutte? Che tensioni ci sono in queste famiglie così ma enormi? No, ma magari non si considerano nemmeno. Ma come no? Vivono tutti insieme. Vabbè, è troppo lungo, dobbiamo chiudere. Vai, io voglio un incontro a Strasburgo prima o poi, Chieng e Borghezio, che si stringono la mano. Lei la stringerà la mano, sicuro? La stringiamo la mano. Se si presenta l'occasione, non vede perché non stringerlo. Cioè, nel senso, è un essere umano, c'è, cioè una persona che. Essere umano, insomma... sicuro. Essere umano. Essere umano, non c'è dubbio. È un essere umano anche lui. Va bene, grazie. Mi accompagna a Pontida, grazie. Signora. Deve andare a Pontida perché ha perso la scommessa. Perché lui diceva che la Lega prendeva sotto il 6%, invece ha preso sopra il 6%. Va a Pontida, bene, auguri. Ma era meglio, no, venga con me, era meglio il Parlamento europeo senza la Lega? Era meglio? Era più civile? Senza la Lega? Sì. Non sono proprio tra i miei favoriti. Appunto. Però voglio solo dire che ho preso più voti nel loro territorio, più di loro, più vittorie di così, possono fare quello che vogliono. Ho vinto sulla Lega. Grazie, a presto. Prego. Pubblicità. Mamma mia, che orrori. Sì, sì, devo mandare il traffico. Aspettate un attimo, su, dai. Pasquale da Roma, fatemi mandare almeno Pasquale da Roma, sennò altrimenti diventa una follia questa roba qua. Interruzione, casini, dai. Pasquale. Pronto? Sì, dimmi. Pronto? Dimmi, Pasquale. Ciao, dimmi. Giuseppe, ciao. Senti, volevo essere veloce e dirti due cose. La prima sulle api, la seconda sulle elezioni. La prima sulle api, voglio dire che sei un gran coglione. Sì. Perché non capisci assolutamente. Sì, il problema. Mi piace essere coglione. Perché sei mi ignorante. Piace essere coglione. Guardi, perché, no, ma sei ignorante, guarda. Ignori. Guarda, guarda, ti dico solo una cosa. Sì, dimmi, dimmi, dimmi, fenomeno, dimmi, fenomeno. Parlamento. Se non si chiede in Parlamento il bando dei pesticidi che uccidono le api, tu che cazzo hai mangiato oggi? Lo sai che il 75% del cibo che mangi sì. è anche grazie agli esseri impollinatori? Quindi che sì, cazzo 75%, ma quale quindi, 75%? Cruciani, ma smetti. Senti, Pasquale, io non voglio nemmeno entrare nella questione delle api. Devi stare tranquillo, io non voglio nemmeno entrare nella questione delle api. Ho detto semplicemente che non me ne frega niente che si discute in Parlamento di api, capito? Ma è giusto, dove cazzo si deve discutere in questo sì, momento? Sì, in Parlamento di api, dai, ma smettila, su, non c'è un Parlamento al mondo che parla di api. Non c'è un Parlamento al mondo. Come non c'è un Parlamento al mondo? Ci sono mille parlamenti che si parla di api, che hanno messo al bando, cioè pesticidi. Esiste anche una petizione online. Ma appunto, la petizione online, hai detto giusto. Vi occupate quindi, di quello, ascolta, vi occupate di quello. Il passo seguente, è chiedere che qualche coglione politico parli delle app. Seconda cosa, sì. elezioni. Quello si prende la cocaina, quell'altro chi? Si prende il malo. Ah, Ferrara, sì. Ma sì, ma quegli imbecilli. Cioè, ma Cruciani, c'è uno che è stato, cioè veramente è Berlusconi, cazzo, è stato, cioè è fuori dai giochi, ha preso il 16%, porca troia. Cioè, e allora? Il 16%, ma è un paese di pazzi, non c'è democrazia. Me ne vado, Cruciani, me ne vado. Finalmente ti togli dai coglioni. Comunque Tango fa cagare, se meglio in radio, ti voglio bene, un bacio a tutti e due. Ti abbraccio, ti amo, è una cosa diversa, imbecille, traffico. Vedi che minchiate che dite, oh. Sono tempi duri, eh. Non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Datemi un paio di corna e vi solleverò il mondo. Pure lo spray a di Zanzara mi son messo via, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist, da Zanzara twist. Una volta a polpaccio e poi all'altro, una volta nel braccio. Oh ragazzi, è diventato un fenomeno mediatico questo Ronzino. D'altra parte uno si chiama Ronzino, non può che finire, non può che finire in questo modo. In questo modo. Alfredo Ronzino, ieri a Ballarò. Molti dicono un disastro totale, 25.000 voti ha preso, non eletto al Parlamento Europeo, invitato chissà perché, devo dire, scovato dagli uomini di Ballarò, dagli scouting, un'operazione di scouting, gli uomini di Ballarò, ha fatto un po' ridere la rete, eccetera, eccetera. Diciamo, non è il classico mostro della Zanzara, devo dire subito, sembra chissà che cosa, però certamente qualche cantonata l'ha presa, e che sono abituati male altrove, no? Noi siamo abituati a gente che le dice di cotte e di crude. Questo qua, sì, le dice, ma non è che poi dica delle cose pazzesche. Beh, Ronzino, ma che ne sai te, manco hai sentito Ronzino. Come, te l'ho segnalato io, l'ho visto ieri sera a Ballarò. Ah, è vero, me l'hai segnalato tu, vero? Stranamente, Ronzino. Sentiamo che dice. Prima sbaglia, no, dice che praticamente, per esempio, la pesca se ne devono occupare i pescatori, una cosa di questo tipo, cioè delle questioni della pesca se ne devono occupare i pescatori. Quando noi si parla di politica, oggi si dovrebbe partire da un concetto fondamentale. Quando si parla di lavoratori bisogna ascoltare i lavoratori, quando si parla di pescatori bisogna ascoltare i pescatori. Qui ci sono dei politici che fanno le leggi e questo non va più bene, è un modello settecentesco, va innovato. Ora sei qui fra le mie dita. Non serve. Sì, però i pescatori se ne devono occupare, non i pescatori. Sei. Ma poi sono delle cose talmente ovvie che uno fanno. Uno vuole pescare, pesca, no? Che roba è? Che legge devi fare? Vai lì con la canna e peschi, fantastico, ovunque così. Padri costituenti col web, senti questa, Parezzo, questa è eccezionale pure per te, bellissima. Se oggi i nostri padri costituenti avessero il web, io immagino che lo potrebbero mettere nella Costituzione. Perché non si ha il coraggio di fare dei confronti e mandarli online perché si possa vedere? Perché il Consiglio dei Ministri non viene trasmesso in diretta? Perché non si dà spazio alla democraticità? In questo modo forse tante cose potrebbero venire anche dal basso. Mi ha beccato, mi ha beccato. Hai capito? Ma è chiaro. Ma no, non è chiaro, non è ma non si può discutere su web delle leggi. Le leggi non possono essere discusse tutto su web. Trasparente. La commissione d'antimafia, tutto, anche i mafiosi. Ma perché non vanno in rete, ad esempio? Ma immaginate che meraviglia, i mafiosi in rete, la camorra online. Stupendo. Ma anche la criminalità non capisce più un cazzo. Cosa ci stanno a fare con le lupare? Sparate in rete, amici miei. Tutto in rete. Un inseguimento in rete, no? Bellissimo. Lo fanno ovunque, la criminalità è già nella rete. La camorra, bellissimo, lì. Anziché stare lì a spacciare la droga, spacciate nella rete. Ma guarda che lo fanno già lo fanno. Vedi che lo fanno, è più avanti. Poi dice un'altra cosa, il signor Ronzino. Siete finanziati con i soldi pubblici, parla dei giornali, ci sono là vari direttori. Io non voglio difendere nessuno, perché non me ne frega veramente un cazzo di difendere Calabresi o Giannini, non me ne frega nulla, non ho nessun interesse. Però non è così, cioè, non è che sono finanziati, c'è una parte infinitesimale che riguarda una serie di cose, ma come ci sono le facilitazioni, io cancellerei tutto in genere, tutto quello che è come aiuto di Stato, cancellerei tutto, dalla prima, anche alle imprese, eccetera, tutto da cancellare per me. Non c'è dubbio, da questo punto di vista in alcuni casi hanno ragione, però non è che questi giornali campano perché sono finanziati dallo Stato. Hanno un piccolissimo aiuto, ma se non vendessero andrebbero all'aria, cioè andrebbero, fallirebbero, capito? Fallirebbero. Sorrido perché il problema mostruoso che fa precipitare la classe giornalistica di questo paese è proprio nella mancata comprensione dei fenomeni. Grillo non sarà mai se primo ministro di questo italiani, paese. No, Grillo con i ha aperto una saracinesca e ha chiesto agli italiani e agli intellettuali di impegnarsi in questo progetto. Poi lei lavora per un giornale che è finanziato dal governo e dal Parlamento. No, lei si vedo sbaglia. Difficile per lei riuscire lei ad andare sbaglia. In contro lei tendenza sta una grande rispetto sciocchezza. A ciò che il governo, l'esecutivo lei si e deve il Parlamento informare. Intendono. Lei si Grillo deve non ha mai proposto tanto, perché lui vuole che sia la base, che sia la base dei cittadini a proporre qualcosa. Se vuole, noi abbiamo una barca di proposte sull'energia, sulla mobilità, sulla cultura. Noi immaginiamo di dover costruire un modello sociale nuovo, ma su questo voi Ronzino 5 Stelle. Il governo poi non c'entrava proprio una mazza, il governo che finanzia i partiti non c'entrava una mazza. Vabbè, diventato lo zimbello questo Ronzino, però forse troppo, forse troppo. È l'unico che ci ha messo la faccia, diciamo. No, beh, forse è l'unico che hanno trovato, perché gli altri non ci andavano, perché non vogliono parlare in questi giorni, signori grillini, vabbè. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. Comunque Tango fa cagare, se meglio a radio, ti voglio bene, un bacio a tutti e due. Ti abbraccio, ti amo, è una cosa diversa, imbecille. Certo che questo è proprio un cretino, Ma perché? È proprio un cretino, questo qua. Un cretino in senso buono, l'abbraccio fortissimo, perché era efficace come interlocutore. Grillo e Farage insieme a Bruxelles faremo guai. Ora Grillo, dopo la sconfitta, chiamiamola così, cerca appoggi in Europa, dice che non è stata una sconfitta, ma quale Waterloo, eccetera, eccetera. Ma vi dico subito che i due. Beh, non vanno molto d'accordo, sono molto diversi. Noi l'abbiamo conosciuto, il signor Farage. Certo. Signor Farage è stato anche nei nostri studi, e fu una puntata memorabile, non so se ti ricordi, a Strasburgo. No? In cui ma io anche l'ho rivisto recentemente. Sì, per il hai fatto una cosa pure tu. Adesso mandiamo qualche cosina. Ma com'è buona quella roba? Perché è una cagata la cosa? Hai fatto era ottima. No, con Farage è una cagata. Era. Era divertentissimo. Mi ha fatto vedere anche la doccia dove si lava dentro. Ah, perché c'ha la doccia dentro il studio dentro, al Parlamento sì, Europeo. Sì, sì. Buon anno, ieri alla Zanzara. Senti qua. Mussolini. Elogio del Duce. Secondo me ha fatto anche delle cose buone. Ovviamente ha fatto anche cose molto sbagliate che non ho, leggendo i libri, vedendo i filmati, non condivido assolutamente. Però se parliamo di pensioni, di quello che ha fatto come opere pubbliche, di quello che ha portato comunque all'Italia sotto l'aspetto dell'istruzione, anche con Gentile, credo che abbia fatto delle buone cose. Contro la pedofilia, la pena di morte. Guarda, è una cosa sulla pedofilia, io sarei tentato di dire questo, che ci vorrebbe la pena di morte. Se io dovessi pensare su mio figlio di un pedofilo, io lo vorrei morto. Va vado a Strasburgo a battere la scarpa, come fece Khrushchev, peraltro, ti ricordi? La scarpa sugli scranni. Stiamo arrivando. Io penso di fare il deputato europeo in Italia, perché sono squalificato talmente tante volte che rimarrò in Italia più spesso di quello che... La prima cosa che voglio fare è andare a tirarmi via una scarpa e picchiarla sul banco e dire: questo rumore delle truppe che arrivano per far cambiare l'Europa. Alla Mourinho, quando diceva: sento il rumore degli avversari, ecco, io picchio la scarpa sul banco e dico: questo è il rumore di chi arriva dall'Italia per dire che ne abbiamo basta di immigrati, di clandestini, dell'euro e delle banche, di tutta questa schifezza che c'è. Allora, voglio segnalare anche ai diversi elettori, al di là di Buonanno, diversi elettori del Movimento 5 Stelle che sono di sinistra, perché diciamoci la verità, molti elettori del Movimento 5 Stelle sono di sinistra o vengono infatti da una formazione tornati al PD, infatti. No, ma al di là del fatto, vabbè, adesso non è che poi amico mio, quello ha preso il 21%, però aveva preso il 25%, non è che ha preso il 5%. Ho detto che alcuni sono tornati sì, al Partito Democratico. Sì, però voglio segnalare ai molti elettori di sinistra del Movimento 5 Stelle che il signor Farage, non è proprio un progressista di sinistra, ma è un reazionario vero. No, ma io adoro il signor Farage, però no, ma che c'entra? Però è contro le nozze gay, ma contro l'immigrazione. È contro qualsiasi cosa. Dunque voglio segnare che Grillo ha trovato un'intesa, per un gruppo parlamentare in Europa con un tizio che tutto è tranne che di sinistra. Dunque domani si sveglino gli elettori di sinistra del 5 Stelle. Il signor Farage è un reazionario. Beato lui, è un reazionario di quelli tosti, di quelli seri, con i controcoglioni. Però questo è Farage, che ha poi anche vari problemini di altro tipo di cui parleremo domani quando abbiamo più tempo. Cioè Di Battista, te lo vedi tu? Di Battista, terzo mondista, un Di Battista che va in Sud America, un Di Battista che ha, come dire, Che Guevara, mi ricordo, no? Con il signor Farage, sveglia, amici, sveglia! Cazzo, sveglia! Beh, che orrore, sì. Allora, un tizio, il presidente dell'industria di Treviso, no scusate, non un tizio, inchiniamoci un secondo. Presidente dell'industria di Treviso. A proposito, sì. Ma i tuoi amici rom? No, adesso aspetta. Dove che devo cazzo spiegare. Sono? No, aspetta un attimo. Hanno preso i 5 no. euro, aspetta, gli hai dato 5 euro per venire a cantare stasera. Ma e ti hanno bene, fregato. La storia va raccontata. Ma che bene. Va raccontata? Allora, gli hai dato 5 euro adesso per venire lo qui. Chiamo Ovidio, il mio amico Ovidio che mi ha detto: Ovidio, oggi gli ho dato 5 euro, ma... guarda, gli do anche il biglietto della metropolitana, che così sale col biglietto amici della metro. Amici da Zazzara, i rom hanno fregato Parenzo. Aspetta, amico no, mio, come non no? È andata così. Gli ho dato 5 euro, gli ho detto: allora fratello, ti aspetto, vieni. E lui mi ha detto: sì, vengo anche con violino d'oro. Dico: vabbè, porta anche il signor violino d'oro, che è il suo amico. Un violino d'oro. Adesso lo richiamo, gli dico: fratello, dove sei? Dice: allora mi puoi dare 50 euro? Dico: amico mio, è venuto l'altra volta. Ma veramente 50 euro ti hanno chiesto? Sì, gli ho detto: guarda, qualche settimana fa il signor Pelù è venuto. Pelù! Dico, sì, Pelù. Non Ovidio, no? Che suona lì davanti al ristorante da Dante a Roma, a Prati, no? Pelù! Suona la cosa. Io ho detto: guarda, non è che ho dato 50 euro. Pelù, che è Pelù? E dico: Pelù, guarda, è un cantante. No, non dire così. Allora adesso io, siccome ho un fratello, gli ho detto che gli davi 50 euro, che glieli davi, tu glieli avresti dati, no? Adesso chiamiamolo un attimo Ovidio, però, perché devi spiegare. No, Ovidio. Davide? Chiamate Ovidio dalla regia, vi ho dato anche il numero. Dovete andare a fare in culo. Adesso lo chiamiamo un attimo, però prima chiamiamo una signora. Ovidio. Prima chiamiamo una signora, aspetta. Ovidio. Il Roma ha fregato 5 euro a Parenzo e col cazzo che è venuto alla radio, non solo pretende 50 euro per cantare. Ti rendi conto? Sì. Quello già, con il violino d'oro! Il Roma! Il sì. Roma! Il mio amico Roma. Dai, su, sì. Dai. No, è rumeno, perché lui dice che ne guadagna di più la sera, se no perde una giornata. Roma, ma ha ragione, perde una giornata di lavoro, poverino, se no. Ma dai, su. Lui mi ha detto che vive con la moglie, due figli. Vive con la moglie. E suona la fisarmonica, ma è una persona schifo, straordinaria. Ma che schifo. Ma come aspetta, che schifo? Aspetta. Ma ti parla? No, ma... Yeah. che con lo squilla il telefono della Zanzara, squilla a vuoto per adesso. Ti ho fatto un secondo il caffè. Marco da Trento. Dov'è un video? Chiamalo. Adesso aspetto. Buonasera a tutti. Vai Marco. Ciao ragazzi, come va? Bene? Bene, bene, dimmi. Ascolta, io ho preso gli 80 euro. Ho preso gli 80 euro e me li sono giocati. Hai incassato e te li sei giocati subito? Sì, li ho giocati su Parenzo che non va. Ah, lì con la Lega che non va a Pontida, guarda, stai certo che va a Pontida. Andrò a Pontida con il mio esercito di amici rom. Ma non ci credo. Ho perso. Vengo con un gruppo di rom. Vengo. Allora, io voglio ricordare, tra l'altro, che un dirigente dell'UKIP, il partito di Farage, ha detto una volta: UKIP. No, ma ti dico quello che ha detto. Da quando viene riconosciuto il matrimonio gay, la Gran Bretagna è colpita dalle alluvioni. Lo ha detto David Sylvester, dirigente. Cioè, oggi Grillo è andato a parlare e a stringere un'alleanza in Europa con un signore nel cui partito c'è gente che pensa che il matrimonio gay porta alle alluvioni. Amici miei, sveglia, gente di sinistra che siede nei 5 Stelle, dite qualcosa al signor Grillo. Vabbè, chi era? Marco, dimmi. Non c'è più. Caterina da Monza. Sì, ciao. Che non è la monaca di Monza, no? Lei è monaca? No, niente monaca. Lei è suora o no? No, neanche, non no. Neanche. No, cioè, no, insomma, sposata. Sposata, vabbè, sposata, allora un po' suora è. No, perché? Vabbè, sai, sposate, di solito. Comunque io mi devo sfogare perché c'ho una rabbia dentro. Appunto, che... si sfoghi anche in questo modo. Io ho sentito lì la Kienge. Sì. E io non sono razzista assolutamente, proprio per nulla, però lei mi sta sulle palle in una maniera mostruosa, ma come persona, ma sa perché? Perché ha fatto stasera? Perché lei ha un'arroganza nel parlare. Ma per nulla, mi pare. No, allora, Oscar Giannino sta ricordando su Twitter alcune frasi di dirigenti del partito di Farage. Scusi, la interrompo, Caterina, torno subito da lei. Tra omosessualità e pedofilia ci sono tali legami che non basta un'enciclopedia. Lo ha detto Julia Gasper dell'UI. Io voglio intervistare questi qua. Da domani mi devo mettere in intervista. Ci sarà uno che parla italiano tra questi stronzi inglesi? No, ma no, manco uno. No, manco io lo conosco bene Farage perché mi ha detto che verrà in Italia. Sì. Mi sono però lui non la pensa così, no? Non pensa che tra omosessualità e pedofilia ci sono. Però ci scherza molto lui sopra, cioè fa anche le battute nei comizi. Domani invitiamolo, amico mio. Verrai in domani invitiamolo. Io l'ho sentito il suo portavoce anche oggi. Domani invitiamolo, dai. Domani invitiamo alla Zanzara, dai, su, grande. Ma tutto in inglese, tu ma come sì, fai, ma chi se ne frega, chiamiamo Platero a fare la traduzione, facciamo un grande show, amico mio, ma te lo devo dire io in diretta. Proverò dai, a chiamarlo su. Domani, mio amico Fabio. Mi devi far copiare l'idea da qualcuno, a Caterina da Monza, dai, Caterina. Sì, c'hai ragione comunque. Che cavolo, dai. Ma hai ragione sugli omosessuali, secondo me non sono mica, vabbè, comunque. Ma cioè, ha ragione, cioè, secondo me ha ragione. La garbata reazionaria. Caterina la reazionaria. Prego, Caterina. Cioè? Niente, io stavo dicendo che mi fa venire rabbia perché non ha per niente un minimo di è arrogante nel parlare, non ha un minimo di riconoscenza per il paese che comunque l'ha ospitata. Ma perché, che ha detto, scusi, sul paese, sull'Italia? Non in questa trasmissione, in generale come persona lei ha questa tale arroganza che sembra che siamo noi che dobbiamo ringraziare lei o gli extracomunitari che vengono comunque accettati nel nostro paese. Li dobbiamo quasi ringraziare che sono venuti qua, grazie che siete venuti qua e che ci vi date i vostri soldi delle tasse, come faremmo senza di noi? Cioè io dico, tu vai in un paese, quando gli italiani andavano in America, cacchio, prima erano comunque lieti di essere in quel paese, non lo criticavano così come lo critica lei, che sembra una merda sto paese, e che se ne andasse a casa sua allora, perché mi fa venire a mente girare. È italiana, eh? Eh? È italiana la signora. Aspetta. È il mio amico questo? No. È Ovidio? No, che Ovidio, ma mandalo a fare in culo. Ma no, devo chiamarlo. Ma dai, su, hai invitato una banda di rom a cantare che ti hanno chiesto pure i soldi. Dai, no, su, una vergognati. Scusami, vergognati. No, Riccardo Poli, chiama Ovidio un attimo. No, vergognati. Ti hai rimesso d'accordo? Ma no, passami Ovidio. Hai fatto uno scherzo, hai fatto un... Pronto? No, non ha risposto. Lo so, ragazzi. Caterina, comunque, secondo lei è vero che... Sì, ma io non ho capito. Secondo lei omosessuali, omosessualità e pedofilia sono collegati? No, però io, secondo me, un bambino, un omosessuale, non glielo darei. Se fosse figlio mio, mi rivolterei nella tomba. Ma lei è matta sul serio. Cioè, lei pensa che affidare un bambino omosessuale non glielo darebbe perché avrebbe... Cioè, ha paura della pedofilia. Oh, Cioè, sicuramente anche ma guardi questo, che è pieno di gente, è pieno di gente non omosessuale, cioè di pedofili non omosessuali. Io figlio mio, dovessi un giorno morire, preferisco che vada data a una coppia normale, non a un omosessuale. Ma non stavo parlando questo, io volevo parlare della Kienghe. Vabbè, ma io parlo di quello che mi pare. Anch'io allora, tu parla di quello, io parlo della Kienghe. Comunque dovrebbe essere leggermente più riconoscente nei confronti di un paese che comunque l'ha ospitata, che comunque l'ha fatta crescere, perché l'ha fatta studiare. Vabbè, ma lei come fa a dire che non è riconoscente? Ma dire grazie anche all'Italia, non che è sempre una merda, come lo dice, come sembra che sia lei. Cioè, almeno quello. Va bene, grazie, ciao. Grazie, ciao. Well, now, gli omosessuali sono fan di sinistra e comunisti, la piantino di dirsi normali. Douglas Denny, dirigente del partito di Farage, l'UKIP. Beh, stupendo, eh. United Kingdom Independence Party, no? Mi sembra sì, che sia. Esatto. UKIP. I nuovi alleati di Grillo, eh. Amici miei, come ci divertiamo qui. Matteo da Verona. Matteo. Sì, buonasera, ciao. Complimenti perché sapete sempre alleggerire i temi a volte anche difficili. Dimmi. Io chiamavo perché ho acceso la radio prima finché parlava un ragazzo sulle api, l'ho sentito. Sì, che mi ha attaccato perché dico che banalizzo il discorso sulle api. Io non sto sottovalutando il discorso sulle api. No, ma infatti io l'ho sentito subito imbestialito, sembrava fosse stato appunto lui dalle api. Però io volevo portare la mia esperienza, visto che poi nella vostra trasmissione si può anche alleggerire. Io sì. Sono un agricoltore, non ho particolari interessi verso le api. E so però, lo vedo la mia esperienza, che sono un indicatore, cioè sì. Quello che succede attorno, no? Quindi sì, certo. Non è tanto importante parlare. Ma che succede attorno, scusi? Succede che, per esempio, nel nord Italia, non so citarle i dati a memoria, però non so, viene usata qualche tonnellata di pesticida. Chiaro che l'indicatore poi è quello delle api che muore. Quindi il concetto non è tanto preoccuparsi dell'api che muore, è poi la qualità, come diceva questa persona qua, del cibo che mangiamo noi. È un po' come dire, la signora di Milano, no, che si preoccupa delle tende bianche che si sono annerite per lo smog. Non è quello il problema, vuol dire che magari ci sono le cose. Però scusi un attimo, adesso al di là di tutti questi discorsi, ma lei le pare normale che ci siano interpellanze parlamentari, non mi ricordo su che cosa, su questa questione delle api? A parte che le interpellanze parlamentari non portano mai a nulla, è un dispendio di energie, di carta, di cose inutili. Guarda, ma se ne dovrebbe occupare il ministero, gli enti locali, cioè se è un problema la moria delle api, benissimo, si intervenga, per carità, a livello locale, a livello di polizia forestale, non so che cosa, quelli che si occupano di agricoltura, ma in Parlamento serve solo a farsi belli, a stare lì a dire due cazzate per giustificare la propria presenza, capito? Per magari dire agli agricoltori siamo noi che vi proteggiamo, invece poi non si fa una mazza. Per parlarne. Dai, su, il Parlamento italiano. Potrebbe essere anche la vostra radio, cioè piuttosto di parlare di due, meglio parlare delle api. Amico mio, lei ci vuole fare chiudere, però battenti, perché se noi parliamo delle api dalla mattina alla sera, andiamo. No, ma quello, il pensiero che volevo portare io, però non sia troppo serio, cioè quello di dire... Non soffermiamoci sul discorso delle api, cioè bisognerebbe capire che quello è un indicatore che indica appunto che la qualità del cibo, la qualità dell'ambiente è scadente. Vabbè, grazie. Manuel da Milano, Manuel? Ciao, pronto, mi senti? Ciao Manuel, dimmi. Ciao, innanzitutto sono in debito di scuse con te le faccio ora, però io di solito me la prendo molto di più con Parenzo, ma oggi io devo tirare le orecchie un po' a te. Perché? Ma sei ancora la lingua felpata? Perché? Non ti ho sentito bello agguerrito con la Kienghe come lo sei di solito. Ma gli ho dato della negra, gli ho dato della negra. Aspetta, tu gli hai detto in modo cordiale. Perché non gli hai detto? Che devo dire, negra, brutta negra di merda. Perché andavi a bombardare a casa loro come dicevi nelle scorse puntate? No, io a parte che non hai capito una mazza, perché io non ho detto di andare a bombardare i neri. Le navi, non gli uomini. Ma le navi, vabbè, ho capito, ma abbiamo parlato di tante altre cose, amico mio. Adesso non è che possiamo parlare di tutto. Ma guardi che non ho problema a dirlo, perché non mi sembra una cosa così scandalosa. È l'unica cosa su cui trovo in discordia con te. Perché il resto invece è con Parenzo, perché Parenzo è rappresentante di una mentalità medievale perbenista lazza. Lui è rappresentante della categoria che poi fa parte solo lui, capito? Medievale. Sì, sei un medievale, rappresenti medievale, che c'entra un medievale o perbenista, sono due cose diverse. No, è perché è talmente non ha questa voglia di cambiare. Senti di Rocco da Matera, grazie Manuel. Senti Rocco da Matera. Rocco, Ciao. Dimmi Rocco. Senti, io volevo solamente le due immagini, stamattina il video con l'aereo che arriva dal Congo, sì, e poi l'intervista che voi avete mandato in onda, comandante di una nave, sì, che dice è l'unica volta che siamo felici di eseguire un ordine perché salviamo persone che sicuramente moriranno. Sì. L'idea di vedere bambini da una parte e dall'altra accolti in un modo e accolti in un altro modo, allora? E mi suonava tutto strano, mi sembrava che, cioè lei dice ci lamentiamo vista... degli sbarchi e poi andiamo a prendere i bambini con gli aerei, ecco, questo mi suonava strano, ma sono due cose diverse, mamma amico mio, sono diverse, la vita che viene salvata, vabbè, non voglio essere fatto... troppo buono oggi, vi saluto, vi abbraccio, Parenzo saluto il mio video e ti hanno fregato i soldi sti rom, domani, domani 18:30, vergognati, vergognati. Cornuto, rotto il culo, m'hai abbandonato, Finocchio che non sei altro, mi hai tradito, m'hai abbandonato, però meglio, ti ringrazio perché così ce la siamo cavata. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Pungete, pungete, pungete, ciao. Radio 24. La passione si sente.